Senti una cosa, ma vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani. Sì, assolutamente. Ma senza chitarra non riesco a farlo. No, ma così è un incipit. Ti mettiamo una base se vuoi. Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo? Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto. No, mi dispiace, ma ti ripasso adesso. No, aspetta un attimo, aspetta. No, non mi interessa. Ho un urlo per gli ascoltatori. Non mi interessa. Non mi interessa. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste. E mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Ha! Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans, ribadisco, con i trans. Ero a farmi i cazzi miei nel mio capannone, mi si esibiscono davanti al portone due persone, uno tozzo e lardoso, l'altro colorato tipo muslim, mi fanno: siamo testimoni di Geova, lo sai che il mondo è governato da Satana? La mia prima risposta qual è? Asmodeo, vai via. La mia seconda risposta è stata: il mondo è governato dalla figa, andate a fare in culo. C'è sempre meno figa, da voi in trasmissione. Ragazzi, se vi si presenta davanti in casa, se bussano i signori, di solito sono in due, testimoni di Geova, che vi dicono: il mondo è ormai invaso da Satana, vi parlano di Trinità, vi parlano di altre cose, voi la risposta è esattamente quella che dà l'ascoltatore di prima, è esattamente la stessa. No, scusate, il mondo non è governato da Satana, il mondo è governato dalla figa, non ci rompete i coglioni e andate via a casa, via. Asmodeo, vai via. Allora ragazzi, caro Parenzo, devo è dare giusto ragione. Giusto iniziare questa puntata con l'appello di Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha detto oggi urgente approvare la legge elettorale. Sì, io dico una cosa. Il monito di Mattarella. Io, se c'è qualcuno che fa una trasmissione, esatto, lo dico anche contro il mio interesse, sul monito di Mattarella, ma non perché abbia nulla contro Mattarella, che per me è uno dei più bravi Presidenti della Repubblica. Beh, che adesso abbiamo... non esageriamo. Ma adesso. No, è ancora presto una per bella dirlo. Figura, ancora no, presto. Una bella figura come Napolitano, beh, come sì, Ciampi, vabbè, grandi allora... figure di garanzia. Vabbè, allora... Ma cosa si, come si fa a commentare urgente il monito di Mattarella? No, io però, questo mi domando, cosa si commenta, cosa si dice sul monito nulla, di Mattarella? Non c'è nulla da dire, non c'è nulla da dire. Poi nulla dopo, da sai dire. Quando io ami la politica, trovo beffardo, trovo incredibile l'attacco di Beppe Grillo a Report Sans Frontières, lo trovo vergognoso, reporter, indegno. Si dice Reporter Sans Frontières. Reporter Sans Frontières, lo trovo vergognoso. Trovo invece interessante questa cosa che tu vuoi commentare, che è giusto, cosa? Che è molto giusto. Cosa? Cioè, che questa sai? Questione, no, trovo che questo sia molto giusto. Cosa? Cioè tutta questa vicenda che riguarda il caso Stamina. Ecco, no, ma importante. Non me ne frega nulla. Cioè l'arresto di Vannoni. No, non me ne frega niente. E questa puntata che vuoi fare sui vaccini. No, questo assolutamente è importante, no. Perché è utile, è servizio no, pubblico. No, quindi ti voglio far cominciamo? Ascoltare il marchese, no. Fulvio Abbate, il marchese Fulvio Abbate, sì. Il quale dice che si scoprirebbe la moglie di Macron. Ma che c'entra? Sì, allora, il marchese Abbate, oggi il marchese Abbate, che magari molti di voi non conoscono, sì. È un signore che si è sempre proclamato comunista e che conduceva una trasmissione su web che si chiama, come cazzo cazzo si chiama? Tele Durruti. Conosce signor Fulvio Abate, molto che dice quello che io oggi ho detto ieri. Io sono impazzito per la moglie di Macron. Vabbè, ma è una l'unico così motivo, l'unico te, motivo. So. No, perché c'è un grande dibattito. Stare con dibattito. Una tardona, stare con una più grande, stare con ma uno più grande. Ma il dibattito è sull'amore. No, su il cosa vuol dire è amare. Questo. Non è... Macron, a meno che non sia tutta una copertura, eccetera, numero uno assoluto, perché a 15 anni, 16 anni, si trombava la professoressa a scuola. È il sogno di tutti noi. Beh, sta con quella che io trovo estremamente eccitante. Cioè, la signora Macron, che ne dicono molti, è una figa pazzesca. È incredibile, cioè, mi sembra anche un bel fisico, eccetera. Ha ragione il signor Abate. Ma ho capito, signor Abate lo dice. La futura premier dome, insomma. Premier mamma, alcuni dicono sì, premier cougar sì, in Gran Bretagna. No, i giornali inglesi ne parlano moltissimo, i tabloid. Premier cougar, grandissimo. Senti Bobbo, ma io me la scoperei la signora, la moglie di Macron, perché c'è un suo perché erotico. Addirittura? Sì. Dice che questa è la moglie di Macron, dice che è buona. No, c'è un suo perché erotico, assolutamente. Ha ragione il Marchese Abate, devo dire la verità, cioè, non mi sono mai posto il oggi, problema. Per esempio, facciamo l'esempio di un'ultima premier dame francese, italiana peraltro, Carla Bruni. Amico mio, se dovessi scegliere tra la signora Bruni e la signora, come cazzo si chiama, Brigitte, là, ma tutta la vita, quella Bruni pazzo, là è fastidiosissima, odiosa, fastidiosa, antierotica. Io mi scoperei domani mattina la moglie di Macron, ma domani mattina. Ma chiudete la trasmissione e portatelo via, ma che perché? Scherzi. Sciocca la zanzara, Cruciani in pallina, attacca Carla Bruni. Ma no, così non ho detto nulla. Ma noi la giriamo la notizia. Cruciani attacca Carla Bruni. Allora ragazzi, sempre il Marchese Abate dice che la categoria porno più seguita è quella di Mathieu. E questo effettivamente è vero. Sì, però nei siti porno la categoria più seguita è la categoria mature. Questo lo dice in italiano, Abate, stupendo. Mature, né in francese né in inglese, meraviglioso. Allora, Parenzo, su questa cosa tu ti incazzerai molto. Sul palco della Lega ieri, ce l'hanno fatto notare e ci sono anche degli articoli sui giornali, è salito a un certo punto un signore che si chiama Maiocchi, un signore che qualche anno fa a Milano, 13 anni fa, credo, subì una rapina, lui e il figlio sparò dei colpi, uccise il bandito, hanno passato un calvario giudiziario abbastanza lungo e dopo si è candidato con la Lega, eccetera, eccetera. Questo Maiocchi, a un certo punto, mentre racconta il proiettile che va nella nuca del ladro, c'è il boato della Lega. Cioè, una cosa il vergognosa. Grande boato. Ma perché una cosa vergognosa? Una cosa schifosa, perché applaudire, ma è veramente schifosa. È proprio come gente che. È come andare a vedere un film straordinario di Dario Argento e applaudire durante le scene di sgozzamento, no? Cioè questa morbosità. Mettevi sì, applaude l'opera d'arte. Il ladro ucciso. Stavano applaudendo. È macabro, quello è un partito macabro. È un partito. Ma la macrofibia, come si dice? Necrofibia. È amare i morti, amare il macabrofilia, sangue. Macabrofilia. È la macabrofilia, esattamente. È un partito di macabri che danzano, applaudono sui cadaveri della gente, siano essi ladri, assassini o brave persone. Quell'applauso lì è vergognoso. Ma sentiamolo. Mani lorde di sangue. Ma certo, dai, ma non sto scherzando. Ma gente che applaude perché uno è morto e fonda il proprio partito politico su questa roba qua, quell'applauso è un applauso sporco di sangue, è una vergogna. Fallo sentire, è agghiacciante. Fermi un attimo, non faccio sentire niente, fa venire i brividi quella roba. Non farlo sentire, fa venire i brividi. Non me ne frega, invece lo faccio sentire. Fa venire i brividi quella roba, stupendo, ti assicuro. Dai, mani sporche di sangue. Gente che applaude un assassino, dai, ma è una roba schifosa. Sentiamo. In quel momento esce mio figlio che esplode l'unico colpo che ha sparato nella sua vita. Colpisce un montante della macchina e sfortunatamente il proiettile deviato colpisce alla nuca questo. Gli applausi della gente per bene! Guarda che se ci pensi, della gente una, per è bene, è una zozzeria, se ci della pensi, della gente che vuole ordine e sicurezza, cosa macabra. Ma è che una macabra, cosa, ma è un applauso inferno. Macabro, sì, ma la storia di questo qui che viene strumentalizzato dalla Lega, non so, magari della Lega lui stesso, è della Lega, non mi interessa, ma non mi interessa cos'è, e lui fa la sua testimonianza e poi vabbè, senti, okay. A un certo punto cita Librandi, ma... fischi su Librandi, senti, stupendo, ma, sì, è là. Vabbè, ma quello è, senti, è il Colosseo coi leoni, è il Colosseo coi leoni, roba là. Sì. Devo dire che purtroppo c'è stata sfortuna in quel colpo, però effettivamente dobbiamo sempre ricordarci quando sentiamo Librandi che in televisione ci dice... Fischi su Librandi. Vabbè. A un certo punto in tutta questa discussione facciamo sentire anche quello che dice il signor Severgnini, che ma tu dice, a un funerale andresti, no, ad applaudire, senti, non è successo funerale. 13 anni fa, non è che era successo il giorno prima, ma no, il boato, ma perché l'idea. È morto un ladro, non mi pare il una boato, cosa così, quel boato hanno fatto su bene, quel sangue, hanno fatto bene, quel boato hanno fatto su bene, quel sangue hanno ti fatto dà l'idea bene. Di quanto l'odio ormai, sì, un ma partito odio, fondato basta, sull'odio a invitare sul palco uno che ha ucciso un ladro e farlo diventare un eroe contemporaneo, avete odiato per una vita Berlusconi e tu parli di questi. Io non ho odiato tu proprio no, mai ma nessuno. Ma hanno odiato per una vita Berlusconi ne e poi accusi figurati. La Lega di essere anzi, il partito dell'odio. Dai. Ma infatti, ma non si deve odiare l'odio. Severgnini va fatto di tutto per impedire che gli animali, sì, gli animali, gli italiani si armino. Una cosa però che probabilmente, anzi sicuramente Salvini ed io non siamo d'accordo, è sulla diffusione delle armi. Io credo che va fatto di tutto per impedire che gli italiani si armino. Io penso esattamente il contrario. Ha ragione, penso Severgnini. Esattamente il contrario. Cioè, più armi, senso. Più sicurezza. Sì, più armi, più sicurezza. Poi più armi. Se uno si vuole armare, si arma. Non è che è un obbligo. È già facile farlo. Onde che chiudete, cornuti? La Zanzara. Senza zanzara non so stare. Allora, se non sbaglio, David, Carlo Ripa di Meana, a molte persone questo nome non dice nulla, no, il marito di... della Ripa di Meana, è un fondatore dei Verdi, sì, assolutamente è un personaggio oggi. Storico della politica italiana, insomma, storico, no. Il marito di Marina Ripa di Meana raccontò una volta questa storia a proposito di rapporti tra persone più anziane, donne in questo caso, e giovani. Un episodio è capitato a lui. Lui non disse vecchia, ma insomma questa signora, la vecchia, diciamo così, era stata a fare i bagni a Trieste prima della Grande Guerra. L'ascoltavo affondare la memoria nel passato remoto mentre l'accompagnava a casa, si spogliò, era quasi infantile, tanto era rinsecchita, una carne asciugata come una bresaola. Cioè paragonò la carne, la pelle di questa vecchia a una bresaola, amico mio, una bresaola. Ripeto, delle donne. Si spogliò, era quasi infantile, tanto era rinsecchita, una carne asciugata come una bresaola. Mentre faceva l'amore continuava a ripetere Jesus Maria, Jesus Maria, un antico sussurro latino in tedesco. Silenzio la vecchia. Questo era questo, per ricordare Radio Belva, Radio Belva. Silenzio la vecchia. Alla fine se l'era schioppettata in piedi. Questo Carlo Ripa di Meana, ragazzi, Carlo Ripa di Meana. Però a un certo punto si inserisce un signore che si chiama, ti prego, stai calmo, Parenzo, su questo, stai calmo. Un signore che si chiama Mandarà. Signor Mandarà. Te lo ricordi? Eri spuntato fuori il signor Mandarà con le sue teorie. Mandarà era quello che faceva i video per Grillo. Sì, sì, assolutamente. L'ex 5 Stelle, che sì, c'ha quella TV lì, web, come ma si non chiama? Non lo so come cazzo si chiama, non lo so. Signor Mandarà, Hitler voleva la pace, gli hanno scatenato addosso una guerra. Stai calmo. Ma chiamate qualcuno, ma aspetta, internatelo. Aspetta. Ma aspetta cosa? Aspetta. Senti. Aspettiamo. Quello che posso dirvi è che Adolf Hitler, prima della Seconda Guerra Mondiale, aveva proposto alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Francia, per un numero enorme di volte, mi sembra 49, comunque tante volte, aveva proposto, diciamo, un accordo. una pace. Non è assolutamente vero che Hitler volesse conquistare il mondo e voleva fare la guerra. La guerra è stata scatenata contro Hitler. Il signor Mandarà, se tu pensi che io mi metta a fare una discussione storica con questo imbecille, ti rispondo che non sono pagato abbastanza. Cioè, premesso, ottimo lo stipendio, benissimo, grazie alla TV24, ma per poter sostenere anche solo una conversazione storica con questo idiota, ti dico che non sono pagato a sufficienza. Pagato dal Mossad! Pagato dal Mossad, non a sufficienza però. C'è altro, però te lo faccio ascoltare più avanti. C'è anche dell'altro. Sì, per esempio, sul presunto numero di 6 milioni dell'Olocausto, che è la storia piena di cazzate. Ma di cosa ti prego, parlando? Senti. Allora, sto cercando di farti incazzare, ma non ci riesco, comandarà. Però senti. È un caso clinico. Senti. Tutti i telegiornali dovrebbero essere pieni per il fatto che muoiono 35.000 persone di fame. Ogni giorno, ogni singolo giorno, 35.000, 12 milioni ogni anno, 12 milioni, il doppio del presunto numero dell'Olocausto. Dico presunto perché non c'è nessuna prova del fatto che, come dice la storia piena di cazzate, sarebbero morti 6 milioni e mezzo di ebrei, zingari e altri. Non c'è nessuna prova di questo numero. Comunque, insomma, non c'è nessuna prova. Queste minchiate, dove le dice questo qui? Liberamente, cioè, a casa sua, liberamente. Ecco, sì, l'unica cosa certa è che in zona non c'erano ospedali liberi. Questa è l'unica cosa. Non c'erano letti disponibili per metterlo lì, sedarlo e lasciarlo tranquillo almeno qualche giorno. Mandarà. Roberto da Milano, vai, iniziamo, vai. 100.000 volte la signora Macron. Bravo. Della signora Carla Bruni. Bravo Roberto! Le donne mature danno passione, amore, esso, danno tutto. Insomma, a me l'unica volta che non mi è riuscito è stata con una più giovane di me. Non ho capito, scusa Roberto, però te sentiamo male. Stai esprimendo un concetto fondamentale alle 18.52, in un momento centrale importante di questa trasmissione. Che è molto meglio la moglie di Macron e della Bruni. 100.000 volte meglio. La donna matura da sesso, da tutta se stessa, molti da pretese. Guarda, io l'unica volta che ho fatto Cilecca è stato con una più giovane di me. Vabbè, adesso amico mio, quello dipende magari dal fatto che non ti eccitava abbastanza. Hai fatto Cilecca nel senso che non ti è tirato? Zero. Ma zero, non me ne fregava niente. E lei cosa ha detto alla signorina più giovane? Mi ha lasciato lì come un cretino, ma non me ne fregava niente neanche a me. Mi sono rifatto con una più matura. Vabbè, grazie per questa comunicazione che ha fatto alla radio economica del Sole 24 Ore. Una volta è meglio la signora Macron che qualsiasi altra, Carla Bruni o roba di quel genere. Vabbè, Carla Bruni non era proprio di primo pelo comunque all'epoca. Sì, peraltro va bene, però ma dai, lascia stare. Va bene, Gabriele da Genova, vai Gabriele, vai, vai. Sì, ciao. Dimmi. No, dunque, quel discorso lì di Maurizio Costanzo che diceva l'altra volta che non è giusto, bisogna stare attenti che le belle ragazze sono spregiate, sì. E allora quella l'ha interrotto per dirgli no, ma tutte quante devono stare attente, non solo le belle ragazze, perché anche le ragazze normali possono essere spregiate. Beh, mi pare fondamentale questo, cioè non è che vengono spregiate ha solamente. Ha detto una cosa abbastanza. Ha evidente. Detto una stronzata, ma così Costanzo, totale, diciamocelo. Ha detto una stronzata, ma capita a tutti di noi, diciamo tutti, tantissime tutti, di stronzate, e anche fantastico Costanzo può dire delle cazzate. O ma no? Allora, io dico che ha ragione Costanzo, perché al netto ragazzi, ma di che parlate? Tutto, di che parli? Perché al netto di tutto il politicamente corretto da catto, al netto di tutte le cose che si dicono perché bisogna dire per forza, in realtà tecnicamente è solo una bella ragazza che può essere spregiata. Ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Le ossessioni riguardano tutti, le persone malate, ossessionate, che arrivano a buttare l'acido addosso ad una persona, possono, cioè non è che dipende dalla bellezza di queste ragazze, non dire cazzate. Sì, buttare l'acido sì, ma spregiare, quello stavamo parlando, spregiare di quello si parlava, non è che si parla. Spregiare è un bel ma in generale non è la ragazza che può essere spregiata. Ma non è, ma non hai capito. Perché sono le opere d'arte che si spregiano. Gabriele, non c'entra, ma che c'entra, non sono i cessi che si spregia, a parte che la sì. sfregiano le opere d'arte, non si sfregiano. Scusami Gabriele, la distinzione tra cesso e non cesso spesso è anche abbastanza personale, certo, poi ci sono delle cose. Certo, certo. Per cui di che parli? La violenza nei confronti delle donne non è che dipende da quanto la donna è bella, non diciamo la violenza, dai. È una cosa, ma lo sfregio si può sfregiare. Vabbè, Matteo da Roma, dai, è una cazzata. Sì, Matteo da Roma, vai. Do, Matteo, dimmi. Dimmi. Pronto? Dimmi Matteo, dimmi. Ciao, io c'ho 26 anni e sì, ho cominciato a masturbarmi 14 anni fa dopo Pasta al Market, quindi comunque con internet, e noi siamo, cioè io con la nostra generazione siamo quelli che stiamo in fissa con Mara Venier, con Anna Falchi, con le belle MILF, quelle burrose di una volta, quindi... Allora, Matteo, stai dicendo una cosa fondamentale, caro Parenzo. Le nuove generazioni, certo, quelle che compulsano internet, quelle che vanno, esatto, eccetera, e che vanno probabilmente anche su YouPorn e queste robe qua. Esatto, questo ragazzo esatto. A 26 YouPorn, anni. Cerco Cougar, cerco MILF, cerco Hot Mom, cioè cerco tutte hot quelle mom, categorie. Hot Mom, Hot Mom, Busti Hot Malf, Busti. Parenzo, tu sei mai andato dentro YouPorn a fare Hot Mom? Dottore, fatto play appellitivo. Dottore, play appellitivo. Non guarda YouPorn. Play appellitivo con dottore Tlonchetti Plovella, che è passato qui con Macchina Blu. Pleso, dottore. No, appena sentito YouPorn. No, ma Matteo, sta dicendo una cosa seria. Scusa, adesso, no, perché poi il filippino mi ripasserà a Parenzo. Però ci sono storie dietro. Cioè, che storie ci sono? Cioè? Praticamente tu vai a casa della tua ragazza, la ragazza magari ha 20 anni, è giovane, qualsiasi piccolo, non ti fa tanto sesso, sì, la mamma c'ha il marito che è sempre fuori per lavoro, mentre la figlia va giù a cucinare, arriva la mamma che poi fa sesso con te. Vabbè, adesso questo è un caso limite, non mi dire che ti è successo, cioè di scoparti la mamma della tua fidanzata. Ma figurati, questo guarda troppi film. Cioè, esatto, no, sono quelle cose che ma è un tuo sogno, però è un tuo sogno quello di stare con una tua coetanea e magari trombarti la madre, o no? Esatto, sì, ma perché ti ripeto, io sono in fissa come tantissimi della mia generazione, prima dei 30 anni siamo in fissa con le MILF, comunque con le donne, quelle belle, quelle... Per cui per te questo adesso magari non lo conosci bene, questo possibile presidente francese Macron che sta con... No, ma sono anche un... come si dice, un appassionato, avrei votato per la Le Pen perché comunque però lui la moglie è una figa pazzesca, cioè queste tette rifatte, questo zigomo che sta su rifatto, ha questo labbro molto prorompente. Le tette rifatte, no, è vero che c'hai tette rifatte, raga, voi lo sapete, no pare di no, sì, amico sì, mio sì, sì, sì, ma vede, che ne sai comunque, te Matteo, che ne sai perché quando raggiungi una certa età sono comunque un po' calanti, se vedi sulle foto su Google stanno sempre vedremo tutto. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. La Zanzara. No, io ti ho parlato dolce e semplice. Dai amore, ti va se ascoltiamo un po' la Zanzara? No, mi fa schifo. I don't believe it's already dead. Dottore, un cazzo! Non sa neanche lui come ha preso il diploma, altro che dottore. Cruciani, ma portagli la lingua, quello lì, portagli la lingua! No! Allora, la più bella su Macron è la sua mom e la sua moglie, è piuttosto âgé, come sapete, 25 vabbè, anni di più. E la battuta forse migliore è venuta da Luca e Paolo. Senti Luca e Paolo. Lui l'ha conosciuta al liceo, sì, l'ha presentata a tutti dicendo questa è la mia prof e io la sposerò. Sì. E lei l'ha presentato a tutti dicendo non è come pensate, lui è il nipote di Mubarak. Allora, Cito va ancora in televisione a parlare di pensione, di vitalizio che gli hanno tolto, l'ex sindaco di Taranto, condannato per mafia, come abbiamo più volte detto anche qui, va in televisione a fare spettacolo, a fare show. Sentite. Oh. Io non ho capito in che cosa è stato condannato con sentenza definitiva. Concorso esterno in associazione mafiosa. Ok, è chiaro. Allora, teste di minchia. No. E mo andiamo a parlare. Uno per volta, uno per volta. Però... Io sono stato condannato dopo 25 anni, scienziata, sono stato assolto per fatto non sussiste, testa di minchia! Ma andate a far culo! E perché si viene qui dentro e si parla di Conca? Conca! Io? Allora si aggiorna! Conca! Con calma, se no si va nei casi. Giusta. Dopo chiariremo anche questa storia. A me fa impazzire questo. Con calma, con calma. Detto, testa di minchia. Andate a fanculo. Con calma, però, con calma. La quinta colonna. Caro Parezzo, quella che ti piace a te, la quinta colonna. Sì, chiaro, la quinta colonna. Allora, dove andiamo? Andiamo a Ivan, Roma. Vai, Ivan, vai. Allora, buonasera. Vorrei dire liberamente quello che penso. Beh, questo mi pare. La premessa non mi pare opportuna. È chiaro che lei parla e dice le cose liberamente. Se è controllato da qualcuno, ce lo dica. Non so, non è dottore né laureato né ho il vostro stipendio. Non è richiesto. Il vostro stipendio. Che cazzo c'entra? Ma che c'entra? Lo stipendio? Sempre troppo poco. Tra parolacce, cazzo, vaffanculo. Innanzitutto, cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma questo lo dici tu. Questo lo dici tu. E poi mi fate parlare. Posso? Di basso livello, ma basso sarai tu. Cioè, basso. Basso sarai tu. Riguardo comunque, anche se fosse di basso livello. Ieri ero a Verona applaudendo insieme a tutti gli altri per chi si difende. Voi fate informazione falsa, tu Parenzo e ma chi io per su voi... che cosa? Non hai capito una mazza, Ivan. Io sono a favore della legittima difesa stile in quel Lega, modo lo fai, stile così Lega. Volgarmente, ma voi, ma voi non dice, dovreste neanche stare in quel posto. Completamente. Noi non dovremmo stare. Lavoriamo per ascoltare le vostre bagianate. Ivan. Noi siamo per la legittima difesa e per un paese migliore, no, capito? Tu sei per io andare... lavoro per pochi soldi al mese, per non andare... ne posso più tu di queste per... notizie. Tu sei per andare a fare in culo, questo te lo dico io. Bravo. Tu sei per andare a fare in culo. Se l'è un po' cercato. Viva la Lega e chi difende gli italiani. Ma va benissimo, ma tu sei, voi, hai capito? Tu sei siete dei volgari e ignoranti. Tu sei della sei del partito. Vai a fare in culo. Non dovrebbero neanche ascoltarvi e trasmettervi. Sì, questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore dico, Ivan. Guarda, Cruciani e Parenzo, ve lo dico con il cuore, non per insultarvi. Sì, io lavoro per 700 euro al mese. E chi se ne frega? Noi, però, scusi. E chi se ne frega? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Scusa, però cosa non è ancora qual obbligatorio è il per legge ascoltarci. Riguardo alla questo... legittima difesa, voi ferite la dignità ma di io... chi si è difeso. Ma questo non ha capito niente. Anche un processo. Ma questo non ha capito niente. Ma io sono a favore di quello. Che dici? Ma Parenzo che dice che è una cosa macabra, che è un macabra, partito macabra. Su questo macabro, macabro, quell'applauso è macabro. Ma poi scusa, che c'entra? È un applauso sul sangue. Ma su un se delitto. Se entrano in casa te, valla a dire a chi delitto, valla a dire è un applauso si è difeso, si è trovato al limite della propria vita, al rischio della propria vita fenomeno, e dei propri figli. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. No, Tom, questo veramente mi un'offesa, pare... mi stai offendendo, amico ah, mio. Non è vero, quanto guadagni? Molto di più, molto di più. Ma molto di più. No? Ah, bravi, vergognatevi. Ma io perché? Ma perché ragazzi, dovremmo sputarvi in un occhio a voi, e lo sto dicendo liberamente. Ma liberamente quello che è un crimine che abbiamo commesso, scusami. Tu gli dai pure ragione, capito, a questo credito. No, ma dicevo sì, da chiudere la trasmissione questa. Ma da parte. Giovanni da Roma, dai, Giovanni. Salve. Dimmi. Allora, la notizia. No, non si sente niente. Giovanni, non si sente niente. No, non ti sentiamo. No. Franco da Roma, dai, Franco. Eccomi. Dimmi Franco, dimmi. Io vorrei sapere una cosa, Cruciani. Come sì. fai a tenerti vicino uno come Parenzo? Sì, come fai? Questo volevo chiedertelo anche. Allora, siete la brutta copia di Totò e Peppino. Sì. La brutta copia. Beh, l'avete inventato niente. Sarebbe, voi già voi sarebbe... cacate un cliché già fatto, vecchio. Già fatto. Però funziona. Che questo qua funziona? Per cui... ecco, questo no, che vuoi? Meno non ho capito, Franco. Cosa, ma cosa vuoi allora? Cosa vuoi? Io voglio dire che a me la settimana scorsa mi hanno rubato la moto, no? Ti hanno rubato la moto, sì. Non mi dispiace che mi hanno rubato la moto. Condoglianze. Ti ringrazio anche a te. Non mi dispiace mi abbiano rubato la moto, mi dispiace, ma avevo trovato quelli che stavano rubando la moto. Perché cosa avresti fatto? Io gli sparavo in bocca, cioè il porto d'armi gli sparavo in bocca. Per gli una moto rubata. Abbi pazienza. Adesso va bene tutto, va bene tutto. C'è una proporzione. Volevo domandare al signor Parenzo, no? Il signor Donato Lucco e gli occhi a palla. Volevo domandare. Ma adunque è molto brutta questa cosa, perché tu naso lungo, non è un grande adunco, ha detto adunco. Ma mi risulta che anche questo qui non sia esattamente Alain Delon dalla voce, però prego. Sì. Ecco, però sentiamo. Detto ciò, no, io quello che volevo domandare, posso dirti, signor Parenzo, hanno fatto bene a rubarti la moto, posso dirti veramente col cuore, hanno fatto bene a rubarti la moto, posso dirti? Sono felice che ti abbiano rubato la moto, posso dirlo proprio con dal io cuore. Spero che viene. A te ti vengano a rubare qualsiasi cosa dentro. Guarda, sono detto felice ciò. Che ti abbiano rubato la moto, detto ma ciò. No, ma proprio solo a te. Anche io penso che ti si schiferebbero delle cose che ti hanno dentro casa, perché non mi avrebbero rubato nulla. Detto ciò, Franco, adesso non è possibile che tu spareresti addosso a uno che ti ruba una moto. Ecco, appunto. No, ma va bene. Beh, pure quello, per carità. Io no, dico certo, la propria, se uno dentro è sbagliato, ma è sbagliato gambizzarlo. Adesso uno che ti ruba la moto, gambizzarlo, magari chiami la polizia. Non lo so, va bene, per carità. E se come tu fai a chiamare la polizia? Ma non lo so. Scappa, lo devi gambizzarlo, adesso bloccare, non mi fare fare la parte di Librandi, non mi fare fare la parte di Librandi, di Parenzo, eccetera. Voleva domandare una cosa a Parenzo, no? Ma nel momento in cui questo si sputava da solo parlando, che occupa dei territori palestinesi, cosa c'entra? Ci trova un palestinese che gli entra dentro casa, cosa fa secondo te? Perché lui è contro. Ma perché lui è contro che il paragone fatto che le... cosa c'entra? No, no, c'è un paragone, un paragone può essere fatto, perché non c'è nessun paragone. I tuoi amici in Israele, che sono anche miei amici, sì? Peraltro, ma, non c'è nessun paragone. Anche miei amici, si difendono in tutti i modi contro, come dire, contro uno che bussa alla loro porta, metaforicamente, metaforicamente, no? A casa loro, a casa loro. Ma cosa vuol dire? Non ho capito questo. Non ho, cosa c'è? Perché lì quando i coloni a un certo punto si arrogano il diritto di occupare territori. Ah, tu dici non a casa loro... degli altri, dici. Beh, degli si altri. Occupano territori che non sono loro. Vecchia questione. Io siccome sono stato diverse volte, io li stimo, perché tu vai in giro, prendi l'autobus e trovi gente armata che prende l'autobus con te. C'è tutta quanta una festa delle armi. Lei no? Non lo sa, allora, non c'è nessuna festa delle armi. C'è fa? Il terrorismo in Israele, cosa che lei non sa, sì, perché non c'è mai stato. Il è quello che fa Israele tante volte contro i palestinesi, è vero, c'è il terrorismo, hai ragione. Giulio D'Alecco, Giulio D'Alecco. Hanno pagato abbastanza per parlare costantemente. Vabbè, il terrorismo di Israele nei confronti degli altri non è una tesi folle di Franco, è una cosa di cui si discute. Si discute di qualunque cosa. Beh, ma no, è una non follia, è vero, non è come la cosa, dai, cioè non è. Cioè uno Stato democratico non fa alcun terrorismo. Cioè il terrorismo è quello che sì, avviene però, negli devi, autobus, però non nei puoi negare, non puoi negare che sia un tema che esista da tantissimi anni. Ma ho capito, ma non è che se allora, esiste, non è un tema, allora merita non è di come, essere discusso. Non è come le scie chimiche, non è come le scie chimiche, dai, è un'altra cosa. No, non quasi, è un tema ideologico. Sai come la penso? Non è vero. Ma sai è un come tema la penso? Ideologico. Vabbè, cioè dire che lo Stato di Israele fa terrorismo è violare. Ma non è come le scie chimiche. Ma non è come le scie chimiche. Con te di cui ci discute. Quasi, ma non è quasi, vero. Dai, quasi, Giulio, similare, Giulio D'Alecco, dai. Eccomi, eccomi, eccomi. Dimmi. Ciao David, ciao Giuseppe. Io volevo solamente dirvi una mia esperienza con una MILF. Quanti anni hai, bene, Giulio? Quanti anni hai? Adesso 26. Ne avevo quando 19. 19. Che è accaduto? Sì, però cose vere, non ci venire a raccontare cazzate, no, dai, sennò è inutile. Assoluta, verità assoluta. Qual è la conosciuto verità? Questa donna, 42 anni, sì. Proprietaria di una gelateria, quindi sto prendo il gelato, parla del più del meno. Una... Aspettami, che stai a fare con sto telefono, Giulio? Almeno provi a telefonare. Che stai facendo con sto telefono, imbecille? Sono in casa, sono ho capito, fermo. Ma stavi facendo qualcosa, vai, dai, vai avanti. Niente. Comunque... una chiacchiera tira l'altra e una domenica pomeriggio decide di abbassare la Claire e si fa quel che si deve fare direttamente in negozio, quindi sì, vabbè, in gelateria. D'accordo. Cioè tu stai dicendo il che bello qual è stato? A 19 anni ti sei trovato... Anche lei è uno che ha visto troppi 42. Film vabbè, d'accordo. Erotici. Giuro. Non mi pare niente di strano, qual è il punto, qual è la particolarità? Quanti anni aveva questa gelataia? Quanti anni aveva questa gelataia? Vabbè, è normale, dai, 22 anni di differenza, vabbè, niente poi, di particolare. Esatto, la cosa normalissima. Poi arrivò il figlio, però in monopattino, bussò alla Claire, comunque entrò e mi disse dov'è la mamma? E io, guardai... è andato un attimo a sistemarsi, quindi è stata una scena molto molto divertente, basta. Quindi le MILF sono semplicemente il futuro. sono, i MILF sono il futuro. D'accordo, grazie per aver chiamato. Lei ascolta altri programmi della Radio 24 oltre a questo? Beh, qui? No. Milan la mattina, devo d'accordo. Dire. Ciao, amico Milan, mio. Interessante. Ciao. Ciao, ciao, Giulio, ciao, ciao. Saluti, caro. Mi state facendo soffrire stasera, capito? Ma sai tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Chi glielo spiega, mia moglie? Ma sai tutto, solo culo niente. Vai col massaggio romantico. Oh, oh, vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina. Ma sai già tutto, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo manina. Ho capito. Manina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... La solita sveglia. Il solito tram. Il solito tran tran. Ma non è che sei tu quello che fa sempre le stesse cose? L'avventura è la nostra routine. Scopri Jeep Freedom Days. Ad aprile, Jeep Renegade tua con Jeep Free a interessi zero. Oggi paghi la metà, nessuna rata per due anni e poi sei libero di restituirla. Salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official. Nel 2016 le esportazioni italiane hanno segnato il record di sempre, oltre 400 miliardi di euro. L'export è la chiave per la crescita delle aziende. Cosa serve per esportare bene? Un temporary export specialist Comarc nella tua azienda. Comarc, con oltre 100 export specialist in tutta Italia, aiuta le PMI a vendere all'estero. Vai su comarcspa.it o chiamalo 035 23 33 37. Comarc, gruppo Tecno Investimenti. Nelle stazioni di servizio Costantin trovi un prezzo sempre conveniente e il servizio è già incluso. E da Costantin ogni settimana vinci uno smartphone a tua scelta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo. Non mi interessa. Ascoltami, Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. È bello chiamare la gente coniglio quando sei dietro al telefono, Parenzuccio. Io vorrei vederti quando te lo trovi davanti appollegato cosa fai. Vorrei proprio, sarei curioso di saperlo. Vorrei esserci, tutto uomo coraggio di sta minchia, Parenzo di merda. E dato che lo avete evocato, Polegato, il fascista Polegato, ieri, giorno della liberazione, qui alla Zanzara. Il 25 aprile per te, che cos'è il 25? Non conta il 25 aprile. Io sono giorno di lutto. Giorno di lutto. Sono l'italiano. Io sono giorno di lutto, perfetto. Io sono giorno di lutto. No, ti porto la grammatica italiana prima del tribunale. Io sono giorno di lutto, ha detto sto povero demente mentale. Vabbè, ma io sono cosa. Lascialo giorno parlare. Di lutto. Siccome io non ho studiato. Siccome io non ho studiato come te. Come sei vestito oggi? Siccome io. Noi siamo tutti in camicia nera. Oggi ho avuto 40 camicie nere. Addirittura. Abbiamo cantato Facetta Nera. Bravi. Giovinezza. Abbiamo cantato. Il fascismo è stata una grande cosa. E non vi hanno portato via tutti. Una vera rivoluzione. No, non vi hanno portato in ospedale tutti quanti. Ma scusa, i partigiani. Perché hanno fatto solo disastri, omicidi. Fratricidi, sono dei delinquenti quella gente lì, dei delinquenti. L'AMPI è un'associazione a delinquere. Associazione a delinquere, addirittura, faranno, addirittura l'AMPI è associazione a delinquere. Sì. Ma denunciatemi tutti, che cazzo me ne frega a me, Parenzo, denunciami, che mi fa piacere. Finalmente. Ho capito, no, bravo, Parenzo, sì, ho capito. Tu assecondi il pazzo. Beh, quello che ti piace a te, perché ti piace il culo gonfio a te, eh. No, ti piace. Sì, detto che sei in Veneto vecchione, lo dicono, detto... in Veneto lo dicono, Parenzo, molto. Mi hanno detto che sei vecchione. Che ne... Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale, sono rinati figli tuoi con la fede e l'ideale. Il valor dei tuoi guerrieri, Lorenzo, la visione quel di delle emorroidi, va, togli le emorroidi, polegato a lavorar. No, io lavoro, tu non fai un cazzo la mattina sera. Ciao, Valento, ciao. Le tonsille, cioè le emorroidi. Viva il Duce, viva il Duce, fino alla morte, viva il Duce, cioè sono fascista, me ne vanto. Viva il Duce. Allora, caro David, a proposito della polemica... Ma io però, scusami, pacatamente, adesso per chiosare questo, no, questo flusso che hai mandato, questo flusso audio che hai mandato, sì, no? Sì, dimmi. Ecco, ma io dico, ma rispetto a tutti sti qua che si dichiarano apertamente fascisti, cioè, nessuno interviene, nessuno dice niente, cioè, amico è normale... È la libertà, per fortuna. È la libertà, benissimo. Ma allora, io dico solo una cosa, no, voglio tornare a una polemica di oggi, quella, no, il fascismo, queste cose, noi intanto ci divertiamo, non frega un cazzo a nessuno. Alla magistratura dovrebbe ma non lo so, il Movimento 5 Stelle e questa storia della libertà di stampo, no? Sì, ecco, bravo, di stampo, no? Di stampo. Allora, cosa succede? Succede che dicono questi qua, questi reporter sans frontières, che il leader dei 5 Stelle intimidisce i giornalisti. Ora, allora, posso dire con tutte le critiche che facciamo spesso ai 5 Stelle che è una puttanata pazzesca. È una puttanata. Cioè, non è che la nostra è una puttanata che siamo 77esimi nella classifica della libertà di stampa, ma è una puttanata pure che il leader dei 5 Stelle intimidisce i giornalisti. Non mi pare che i giornalisti, l'informazione sia intimidita dai 5 Stelle. Ha dei modi un po' bizzarri, qualche volta un po' rudi di trattare con i giornalisti, Grillo, ma chi se ne frega. Certamente non è lui il problema della libertà di stampa, no, del conflitto di interessi, dell'informazione in Italia. Bravo, non in si chiama modo. Beppe Grillo il problema dell'informazione in Italia. Hai ragione. Però devo dirti la verità, nella board di questa associazione che ha fatto il rapporto in cui si nota questa cosa dei 5 Stelle, in cui si mette in rilievo il ruolo di Grillo contro i giornalisti, ci sono due persone. Uno è Scalfari e uno è Saviano. Dico solo questo. Certamente non hanno nei confronti dei 5 Stelle. Non hanno nei confronti dei 5 Stelle un atteggiamento positivo. Questo non vuol dire niente, perché comunque non vorrà dire niente. Intanto è così. Non vuol dire niente, la tua non vuol dire niente, no. È una illazione, perché è un board come non tu sono hai amici, non internazionale. Ma non sono quelli, non gli italiani in questo board sono ma due. Non contano, come tu sai, solo gli italiani, perché i nomi che vengono inseriti sull'Italia in questa autorevole lista. I nomi, sì, ma non è che uno mette i nomi così. Chi se ne frega? Andrea da Roma, dai. È un giudizio condiviso anche dagli altri paesi. Bah, Andrea da Roma. Poi si può criticare, ovviamente, come fai giustamente. Vai, Andrea. Allora, ciao Crociani e buonasera, amico di Udeo. Io volevo idiota, come sta? Scusami, tu dici amico Rom, non posso dire amico giudeo. Dai, che c'entra, dai, giudeo, perché amico come giudeo lei sa, dispregiativo. È dispregiativo. È dispregiativo, dai. Come no, lei non sa. Trovo. Beh, io non trovo che darle dell'idiota sia offensivo, perché è una constatazione. Andiamo avanti. Amico mio, punti di vista. Prego, la parola esperienza... giudeo spesso viene usata in termini negativi. No, dai, spesso. Lo sai benissimo. Basta Andrea. Consultare no, qualunque i carciofi alla giudia non è in senso negativo. No, ma questo è molto buono. No, ma per dire. No, non è che da sempre baguette, va, da baguette, la maggior parte del tempo, Andrea, quando uno dice giudeo, brutto giudeo, è per dire sporco ebreo, è la stessa cosa. Oh, dai, Andrea. Vabbè, questa è una forzatura. Vabbè, ma tu l'hai inteso in senso un po' per prendere comunque, il culo. Che Parenzo, cosa dai. Vuole questo idiota? Perché comunque se va bene. Questo idiota che ha telefonato, che cosa vuole questo idiota? Volevo dire che io lo su che cosa interviene? Mi vedo tanto sulle mie lenzuole e lo asciugo con il forno. Ecco, questo è il tema. Perché questo è il tema sul quale lei. No, però in questo caso, Andrea, è molto interessante questa cosa qua. Cioè, Andrea sta dicendo che lui, non so se adesso o prima. Beh, un po' prima, ho messo. Cioè, quanto? Ascolto, io intanto ci ho dato. E poi ho acceso il phone, ho fatto un lago salato con la mia ragazza. Vabbè, è una cazzata, dai. È una stupidaggine. Che tu l'abbia fatta adesso è una cazzata, dai. Micidiale, mega galattica. Ho messo via voce, tanto sono stato a sentire pure a TG, che palle, che poi è scaduto pure la linea. E allora non ho capito, ci stai raccontando che cosa? Non ho capito, cosa ci stai raccontando? Beh, è durato poco lei. Che la tua fidanzata squirta? Molto. Sì. Quello è importante, e soprattutto che io per asciugare uso il phone, perché un nemico mi ha consigliato di mettere una tovaglia sotto, però a me pare brutto. Ma un asciugamano di solito si usa in questi casi. Un asciugamano, sì. Una roba io che poi una specie io di preferisco il phone. Per cioè, me più utile, lo metto nel cassetto, tac, accendo, sì. Asciugo sì. E, tac, e via. Non so com'è, ma mi sa tanto di stupidata questa. No, ma può essere so, vero, può essere no. vero. Riccardo Aosta, vai, Riccardo. Eccomi, volevo essere molto telegrafico, porto la mia testimonianza. Vedremo. 27 sì. anni, sto con una ragazza che ne ha, ragazza, donna che ne ha 45. Sì. E sinceramente sentire Adinolfi e tutti quelli che hanno da dire la loro su questa, anche solo discutere su una cosa di questo tipo mi fa sentire nel 1200 più o meno come anno. Cioè, mi sembra una follia, anche solo l'idea di poterne discutere di questo. È lì la donna, al suo fianco? La nonna, scusi, la fidanzata. Che la nonna, tu hai 27, lei ha 46, giusto? 45. Dunque siamo sui 18 anni di differenza. Vabbè, non c'è niente di particolarmente drammatico in questo caso, cioè. No, ma infatti nulla. 27-46, siamo sui 20, quasi 20 anni. È scappata via. Come è scappata? Perché è un po' parenziana lei, non è per mettere, sì. Ma chiamala assolutamente, chiamala. È salita, è andata via, è entrata al supermercato. Ma perché stai con una cosa di 20 anni più grande di te? Ma perché così è Adinolfi direbbe non puoi fare figli, a parte che non è vero in questo caso. Quello sono cazzi individuali, cioè a prescindere secondo me dall'età, se la biologia lo consente. Ma è una storia seria oppure è così, una roba passeggera? No, adesso non vorrei sbagliarmi che poi mi ascolta stasera e si incazza, però più di un anno e più mezzo. Più di un anno, ma che ci trovi? Cioè, la differenza di età in che cosa si riscontra? In qualche cosa? Lei lavora, magari tu fai incazzo, che ne so? No, lavoriamo tutti e due, vite normali, lavoriamo durante il giorno, poi... Lei perché sta con te? Perché ecco, scopi meglio? Perché sei più giovane, carne fresca? Perché? Che ne so? Perché ci siamo trovati, come si possono trovare due ventenni, come si può trovare un uomo di 70 con una di 20. Non ci vedo nulla di male. Una roba, anche solo discutere di sta roba mi sembra, voglio dire, di Nolfi che è un po' tantinero all'arretrato su questo, ecco. No, ma questo non c'è dubbio, qualcuno come di Nolfi ieri ci ha detto, il problema è che lei magari è un po'... No, cioè, ormai praticamente non può più fare figli, praticamente. No, non è vero. Vabbè, perché questo sarà un problema loro, che se ne frega. Ragazzi nostri, scusa. Ecco, appunto. Ho capito. L'importante è che ci sia amore, comprensione reciproca, ma passione. Ma siamo all'ovvio, siamo alla banalità. Siamo all'ovvio, esatto. A letto come va? Eccola. A letto, questo non mi fa figura di amico merda. Amico mio, come è a letto? Tu hai chiamato, scusa. Io sa che sono refrattario a queste domande. Specifiche, altrimenti non rispondo. Sì e no, posso rispondere come nel gioco. No, vabbè, amico, mi hai chiamato tu, però. Che cazzo vuoi? Scusami. Ma funzionerà, no? Altrimenti non ci no, non ma come insieme. Sarai stato con donne anche più giovani, no, Riccardo? Ma certo, sì, ovvio. Hai riscontrato qualche differenza oppure no? No, assolutamente no. Normalissimo, siamo nella norma da tutti i punti di vista. Beh, nella norma non è bello, ti sta ascoltando dopo, ti ascolta e dice sono nella norma. Dovresti dire, ragazzo, questa 46 anni. Non ci sono anomalie significative, diciamo. Non ci sono anomalie. Amico mio, dai. Ma stai a chiamare la zanzara, amica, sì. Radio Maria. ciao. Volevo dire che io sono Giovanni di Foggia, sono il fascista non è un reato. Giovanni da Roma, vai Giovanni, vai. Io sono veramente incazzato con l'Italia e con il governo perché all'Italia, la nostra compagnia di bandiera che ha fatto la storia, sta rischiando. No, a me non me ne frega nulla dell'Italia, per me posso crollare domani mattina, però non me ne può fregare di meno. I fatti. Il governo qui non è focus economia, non ce ne frega niente, dimmi che cosa vuoi. E niente, dico, ma vuole dare 300 milioni che fare l'elemosina, quando poi sganciamo noi 4 miliardi e mezzo all'anno per mantenere i clandestini. Ma cosa c'entra? No, ma veramente, sono spese che paragone. Ma che c'entra? Ma lei è improduttivo. Ma l'Italia è un'azienda privata, ma che c'entra? La ricapitalizzazione, allora, Giovanni, sta per dare un'azienda all'azienda privata, no? Nulla, assolutamente. Per me non dovrebbero dare manco 30 centesimi per l'Italia. All'estero nazionalizzano Per me non dovrebbero dare né 30 centesimi, non dovrebbero nazionalizzare nulla, chiaro? Nulla, per cui non me ne frega. Nemmeno se la vedessero loro. Quello è un altro discorso. Se la vedessero loro, chi vuole mettere i soldi, chi non vuole mettere. La cassa, per quello che mi riguarda, la compagnia di bandiera è un finto problema. La privatizzassero, mettessero un. È già no, la privatizzassero, nel senso la spezzettassero. Questo volevo dire, private, la spezzassero, facessero tutti gli spezzatini possibili immaginabili, non me ne frega nulla. Dunque, non c'entra niente. Se scompare il marchio all'Italia, non me ne frega. L'importante è che ci sono gli aerei per viaggiare. Poi Beh, esiste il marchio all'Italia. Per, perdiamo un fiore all'occhiello. Ma che fiore all'occhiello? Ma già oggi è Etihad, ma chi se ne frega come si chiama? Importante che ci porti a Milano, a Roma, che ci porti a Londra, che ci porti, che la porti a fare in culo. Importante che ci porti da qualche parte, no? Non come si chiama, che cosa c'entra? Vabbè, da noi è andata male, da noi è andata male. Livio da Roma, quando lo Stato l'ha gestita, ha fatto dei buchi peggiori dei privati. Livio da Roma, stato. Vai Livio. Pronto, buonasera. Dimmi. Senta, io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni, però molte voi siete due veramente due imbecilli. L'Italia lo dovrebbe portare in Israele quello stronzo. Ma che c'entra? L'Italia ci sono dei voli. C'ha l'oggetti di dopo. Io prendo sempre l'Italia, ci sono dei voli interessanti che collegano Tel Aviv, infatti, sì. Ma tu sei veramente un povero imbecille. Ma perché? Ma che c'è? Ragazzo, molto lieto. Sei molto lieto. Ma da chi? Sei uno stronzo imbecille. Ma raccomandato. 19:47 Procura della Repubblica competente. Ma perché? Raccomandazione. Che ha detto? Merita una querela. Querela per diffamazione. Querela. Querela. Perché dici le stronzate a tutti quanti, vero? Querela. Querelina. Querelina in arrivo. 19:47 mi è stato raccomandato. Errore, ma errore. Perché li stai dicendo? No, querela. Aspetti gli errori, è vero. Ma perché gli stai dicendo che è un imbecille? Scusami. Ho capito. Dare l'imbecillità a tutti quanti appena uno No, momento, non a tutti, a quelli che lo meritano. Tutti stronzi a tutti quanti, ecco, lei ad esempio meriterebbe l'appellativo di stronzo, non glielo dico perché io meritere sicuramente l'appellamento di stronzo, naturalmente. Una trasmissione, una radio veramente seria che dà informazioni. Vero. E voi invece la rovinate. Vero, io anche questo solo per sentire le stronzate e anche questo è molto buono, ecco, che lei lo faccia. E anche questo tra, ma tu che lei, c'hai nel cervello tra non cui ho lei fa parte di questo Cirque du Soleil, non so se l'ha capito. No, lei, ma lei è un attore principale di questo circo, amico mio. Sì, ma lei, avendo telefonato, fa parte del circo. Chi c'ha ragazzo di 15 anni? Tu A un certo punto non gli posso far sentire no, radio. Non può, genere. Infatti, certo. Ma chi c'hai, ragazzi? Cruciani, di 15 anni? Lui. Però a un certo punto sono un po' attuale. Sì, ma giusto perché prima. Non è questo giornalismo, capito? Sì. Questo è un giornalismo becero. Becero, esatto. Becero è una bella parola. Becero, pecoreccio, no, anche giornalismo. È una bella parola. Pecoreccio, lei, pecoreccio. A un certo punto non è che non è intelligente, però faccia intelligente anche in trasmissione. Sì, sì. Non faccia le sgarate sue a qualsiasi persona, gli dice stronzo, questo è un imbecille, questo è da ricoverare. Secondo me tu lo sai che in testa hai delle pigne, secondo me. Invece del c'ho pure delle pigne, vabbè, però secondo me io non credo che, su, hai non delle credo pigne, che l'Italia abbia bisogno di certe cose, di una trasmissione che è praticamente ingiuriosa. No, non c'è bisogno di questo, ingiuriosa, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. Questo è volgare, questa non è educare, no, l'Italia. Pecoreccia, direi pecoreccia, esatto. pecoreccia è una definizione migliore, pecoreccia. Insomma, alla fine, caro Livio, siamo due pezzi di merda. Però diciamo la ascolta, verità. No, ma io non vi voglio offendere perché no, non è che voi gli hai detto che è un imbecille a quello dopo due secondi. Portate la trasmissione che non va bene. Non va bene, no, infatti non va bene. Siete due persone che sono intelligenti perché hanno studiato, sono intelligenti. Sì, però. Agite da al servizio del male che sì, non questo è sopportabile. No, ma è vero, questo anche secondo me. Vabbè, mi hai rotto i coglioni. Ciao, Livio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora ragazzi, una notizia non dico buona, adesso non voglio esagerare, però certamente non vi batto il petto, caro Parenzo, non sono lì a piangere. Sentiamo. Adesso mi ammazzeranno, mi minacceranno i signori Rom o Giostrai, quelli che sono, no? Lì della provincia di Treviso, dove quel signore che stava facendo una rapina è deceduto, credo. Vabbè, ieri, nella tarda serata di ieri, è deceduto. Mi devo mettere a piangere? Ma nessuno te lo mi chiede. Mi devo mettere a piangere? Ma nessuno ti chiede di piangere per il ladro deceduto. Giostraio morto di gioire, nella sparatoria. Però. Cioè diciamo che nessuno ti chiede un'emozione rispetto a questa roba qua. No. Muore il bandito colpito dal metronotte. Se tu appartieni a noi con Salvini, evidentemente hai sparato, ti invitano a una festa della Lega, ti fanno parlare e ti applaudono perché hai sparato. Il padre, ecco, dice questo. Donati gli organi, lui era buono. Lui era buono. padre. No, hai detto bene. Il signore che ieri era sul palco della Lega. Il signore che era sul palco della Lega. Com'è che si chiamava? Allora, Maiocchi. Io una telefonatina al signor Maiocchi gliela farei. Che dici? Facciamogliela, certo. Perché tu ti sei incazzato come una bestia su questa cosa. Cioè, secondo te quell'urlo della Lega è stata una cosa di orrore. No, orripilante, barbarico proprio, barbarico, da barbaro. Sì, pronto? Sì, Maiocchi? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. Buongiorno. Maiocchi, come sta? Buonasera. Facciamo il possibile per lavorare e andare avanti. Senta Maiocchi, le voglio chiedere, che cosa ha provato ieri quando la folla della Lega, lì dei militanti, lei è salito sul palco, quando lei ha raccontato del momento dell'uccisione del bandito, no? Tanti anni fa, insomma la folla ha esultato, o no? Pazzesco. No, semplicemente in quel momento assolutamente non ha esultato, mi hanno applaudito in altri momenti, ma quando ho detto quello non mi è sembrato assolutamente che abbia esultato. Beh, hanno applaudito e hanno come dire... Io ho parlato semplicemente di una pallottola deviata da un montante di una macchina che ha colpito questo ragazzo alla testa. E basta. No, ho capito, però... E la gente ha applaudito. Questo particolare però ha scatenato... Mi dispiace, in questo... Così come la state mettendo non vi lascio nessuna dichiarazione. No, ma non voglio fare. Ma io sono dalla sua parte. Ma io sono dalla sua parte. Mi fa schifo. No, ma scusi un attimo, io non sto facendo nulla, scusi un attimo. Io sono dalla sua parte a spada tratta. Cioè, a spada tratta. Io leggo qui. Ho capito, ma nessuno. Io leggo, aspetti, in quel momento nessuno ha esultato. No, però scusi un attimo, io leggo dal Gazzettino e ho anche un audio che adesso le faccio ascoltare. Così è morto il rapinatore e la platea leghista esplode in un boato. Non è che me lo sto inventando. Io lo faccio riascoltare, magari lei non l'ha notato sul palco, quando era sul palco. Ah, io assolutamente, magari sarò anche soffermato, ma non le posso dire che sì. Quando ho spiegato come è stato colpito questo ragazzo, per me non c'è stato nessun boato. Ma guardi, le assicuro che è così, ma guarda che secondo me non c'è niente di male, tra l'altro. Cioè, non c'è niente. Ma non mi ricordo che sia assolutamente così. Guardi, le posso fare riascoltare un secondo? Cioè, va bene, le faccio riascoltare un secondo. In quel momento esce mio figlio che esplode l'unico colpo che ha sparato nella sua vita. Colpisce un montante della macchina e sfortunatamente il proiettile deviato colpisce alla nuca questo... Ecco, mi sembra chiaro, no? Cioè, mi sembra. Magari lei non se n'è accorto. No, ma evidentemente non ci ho fatto così caso. Ma non mi è cioè, probabilmente c'è stato quell'attimo del fatto del colpo che ha colpito la nuca. Un'orgia di una folla esaltata dalla morte di questo. No, lui ha detto anche sfortunatamente. Scusa, Maiocchi, esatto, ha detto io anche non ce l'ho con Maiocchi, se non perché si è fatto strumentalizzare dalla Lega per aver ucciso. Sente strumentalizzato Maiocchi? Io non sono stato strumentalizzato. Leghista e roleghista sono diventato fino a diventare militante. Sì? Sono militante della Lega, sì. Mi sono presentato alle elezioni due volte, sono stato eletto dai cittadini di questo municipio. Sì. E in questo momento sono presidente di un consiglio di municipio. Sì. Municipio 5 di Milano. Al municipio 5, Parenzo, cioè non è che è questione di strumentalizzare, è leghista. Sto dicendo di semplicemente che non può essere leghista, scusa, sì, non ho capito. Per carità, è chiusa questa intervista, è chiusa. Ma non è chiusa. Che sentire quegli applausi di quella gente esaltata per la morte. Ma qual è il problema? Ancora? Sta dicendo quello gente che è successo. Gente che andava in estasi, stava godendo, è come se avesse avuto un orgasmo collettivo. Cioè il sangue ormai, la morte porta un orgasmo collettivo. Ma chiude, ha poco da chiudere. Sono io che chiudo, non lui. Tu dovresti chiudere. Come fai a definire un'orgia di violenza o non so di che cosa, di sangue, violenza. Quel grido della folla che a un certo punto di fronte al racconto della morte di un rapinatore esulta perché applaude, in quel momento in quel momento vince la giustizia, ma guarda, muore una un cosa ladro che fa e orrore. Vince la giustizia. vince la giustizia. Cosa, è una un cosa uomo che per fa bene, un uomo. Io gli voglio chiedere scusa a questo qua, perché veramente l'hai trattato come ma una merda. Ma che scusa? L'hai ma no, trattato, l'ho trattato come una merda. No, no, intanto non l'ho insultato per nulla. Ho detto che mi fa. Lui avrà le sue buone ragioni per raccontare. No, per hai detto quella è un'orgia di coso, un'orgia di. Dai, su. Quell'applauso compiaciuto, quasi come dire, non liberatorio, era proprio orgoglioso della morte, che quella pallottola avesse colpito il criminale. Era un applauso compiaciuto di morte. Allora, quella roba allora, lì mi fa ribrezzo. Allora, posso dire che mi fa ribrezzo? Ma mani dai, potenzialmente grondanti di sangue che applaudono un delitto. Pino, ma ragazzi, da Caserta, vai. Ma Pino, quale Pino? Ma non mi interessa niente. Ma questa è una questione vera, dai. Pino, discutiamo da discutiamo di quell'applauso, bene, quell'applauso politico. Applauso stupendo, meraviglioso. Meno male, politico, meno male politico, che c'è l'applauso politico, in cui alle una brave morte, persone una davanti alla morte di un lato, ma la gente applaude. Un banale e terribile fatto di cronaca, fatto diventare un fatto politico. Ma certo, con per forza, perché si 2000, parla di legittima difesa. 2000, che 2000 persone che applaudono perché c'è stato un morto. Ma ragazzi, Pino, è una cosa vai schifosa. Ma di che Pino, di parliamo? Pace e bene, pace e bene. Pace sì, e bene. Dimmi, Pino, dimmi. Volevo fare una riflessione sui Tarzanelli. Che hanno i Tarzanelli? Ecco, che è successo? Filosofo della contemporaneità. I Tarzanelli praticamente 3 giorni che non mi facevo la doccia e ma quindi con la mano ravanavo, però mia, che beh, ma che c'entra, scusa? Gente, c'entra niente, che c'entra con i Tarzanelli? A e buffo, qual è la novità? Sei. Qual è la novità? I Tarzanelli, perché ci sono due tipi di Tarzanelli, quelli due bianchi tipi e quelli marroni. Pensate. Vabbè, bianchi, marroni, adesso mi è svoltata la giornata. Quelli stava bianchi di carta, insomma, non sono niente. Ma, tu ma lei è sposato, è fidanzato. Quelli di carta una sono quelli che alla fine restano dopo le prime pulizie con ma la carta che igienica. Ecco l'esperto, esatto, il parere dell'esperto, e ecco là, il tecnico del settore. Ecco il tecnico. Insomma, non sono così soddisfacenti cioè, come quelli da accademia. Una discussione fermo da lì, accademia, fermo lì, fermo proprio lì, da accademia. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, la pubblicità. La Zanzara. Mi sa che devo andare dopo il psicologo perché se ne può più di questa situazione. Già la faccio più, già la faccio più. Come dicono a Napoli, già la faccio più. La mattina mi sveglio agitato, ma possibile mai che non pensa altro che sticchio, a figa, fregna, chiamatela come minchia ve pare. Già la faccio più quando mi viene, certe notti faccio certi sogni di certi culi a mandorlino. Mamma, mamma, mamma, mamma. Ma poi minchia, ma poi i culi dico io, ma è possibile mai che ce ne stanno di tanti modi diversi? A peschetta, a mandorlino, a bascolo è un po' così, alla Belen un po' pizzuto che sembra che cammina con culo cacato, però quello mi fa impazzire pure quello. E poi ci sono tipo di culo bello bello bello, praticamente è un poco gonfio, però lateralmente anche un po' più chiatto, perché a me mi piace il culo da donna. A parlamone chiaro, a me mi piace più il culo che i tetti, perché col culo già quando è girata è tutta un'altra cosa. Minchia, quando la femmina è girata di culo, Giuseppe, ti assicuro che già sei pronto, già sei pronto, pronto, pronto. Karma quotidiano. Abbiamo piace, con noi Vittorio Sgarbi. Buonasera, professore. Eccolo. Ecco, come andiamo, professore? Ecco, professore. Benissimo, siamo davanti a quadri bellissimi restaurati. Bene. Per il Museo Sartorio di Trieste, che è sempre chiuso. Sì, anche, ottimo. È sempre sì, poco ottimo, visto. Ottimo. Vabbè. E abbiamo collegato l'inaugurazione della mostra della collezione sì, dei sì quadri miei dedicata a mia madre sì, al Salone degli Incanti. Bello, se capita di venire a vederla vi piacerà. Bella iniziativa. Poi ottimo, sono andato con la comunità ebraica ieri per la liberazione, quindi sono stato molto bene, molto bene, corretto. Senti, ecco, io voglio capire una cosa. Allora, oltre alle tue attività sicuramente ti sarà capitato di leggere, non dico queste polemiche, questa discussione in corso tra sul tema Macron che sta con una di 25 5 anni più grande. Allora, io ho detto l'unico motivo per cui voterei Macron rispetto alla signora Le Pen, che pure non mi piace tantissimo in realtà, ma comunque per fare un po' di casino va bene anche la Le Pen, l'unico motivo è proprio questo. Il fatto che sta con una di 25 e soprattutto il fatto che l'abbia conosciuta a scuola, cioè lui da ragazzino, 13, 14, anzi no, 15 anni, ha conosciuto la professoressa e si è scopato la professoressa. Una cosa eccezionale. Questo è un tema che ha molti risvolti. Da un lato il fascino della donna matura che ha più ragione di avere un giovane di quanto non capiti quando un vecchio signore ha una giovane donna, che invece è più frequente. Ma nella questione generale, tu ricordi quando noi avevamo 13 anni, avevamo la supplente, avevo quella di filosofia, quella delle grandette. Sì. Ora, se io avessi ottenuto, fossi riuscito a avere la sua disponibilità e portarla a letto con me, l'avrebbero arrestata perché io ero minorenne. In realtà noi eravamo una banda di ragazzi assolutamente maturi e desiderosi di quella ventenne che era lei. Il nostro Macron è come noi, è innamorato della professoressa e lui è stato in un momento in cui magari potevano pure arrestare lei perché era troppo vecchia per lui, quando lui aveva 16 anni. Quindi lui ha superato questo pregiudizio e oggi si trova ad avere... Cioè, per cui tu lo inviti da un certo punto di vista? No, non lo invito, mi è capitato molte volte anche a me, ma mi piace questa posizione come a te. Non è che lo invidio. Adesso poi il tempo va anche molto avanti, ha 64 anni, lei quindi... Però è molto ben tenuta, è una bella donna, ha avuto fascino e fa da 20 anni. Fulvio Abate dice che se la scoperebbe immediatamente. Io per esempio ho detto prima che è meglio lei di Carla Bruni, cioè, devo scegliere tra due chi scoparmi. Sono tutte opinioni. Certo, Carla Bruni è troppo presa di sé. Il problema è quello che una donna matura con un più giovane è contenta che lui si occupi di lei. Una donna come Carla Bruni è convinta che ce l'ha soltanto lei, che ce l'ha d'oro, e quindi che tu devi conquistarla come se fosse un tesoro irraggiungibile. Quindi da questo punto di vista l'attrazione della... Così, a prima vista questa Brigitte te la faresti pure tu o no? Sì. Ma l'ho guardata in diverse fotografie pensando che ha una tenuta tale da consentire di non superare il mio range dei 16-66, è quello che ho tenuto fin qui. Cioè, non ho capito, il tuo range è 16-66. 16-66. Con questa sono ancora in medio perché è una 64. Sì, ma scusa, ma non ho capito, 16 però non si può, Vittorio, scusami. No, si può, sei tu che non lo sai, non si può pagarla, ma si può scoparla. Sì, col consenso, mi pare una conversazione. No, ma è un dato di fatto, il povero Berlusconi non è stato punito perché stava con la minorenne, come raccontano qualunque legislatore che lo insegna. È stato punito perché l'ha pagata. Pagarla che c'è prostituzione reato, minorile, prostituzione minorile. Quelle due cretine del suo partito. Nello scopare una 14enne o anche una 16enne, ma lei, se è disponibile lei e non la paghi, è un rapporto tra due persone. Però non è bello, però, Vittorio. Dipende anche da quante Lolita è questo, è Lolita. Il problema è quanto è matura lei, le donne sono più mature di noi, eh? Sì, sì, non c'è dubbio, ragione, non c'è dubbio. Però che però non sia io... bello per una ragione così di... No, ma semplicemente per un motivo, caro Vittorio. Quante volte ti è capitato di scoparti una più, diciamo, sotto i 18 anni? Beh, abbastanza, tra i 16 e i 18 non... Ci sono 20 volte? 20 ragazze, di più? Ma sì, anche 40. Beh, non è che ha anche 40. Però, no, beh, lo sapeva. Perché l'età. Allora... davanti una sedicenne. Sì, però, scusa. Le sedicenne di oggi, devi vedere mia figlia. Mia figlia che ha 17 anni. Sì. No. Cioè... tiene al guinciaglio due uomini alla volta, c'è un tutto altro suo mondo. Padre praticamente tutto suo padre. No, però Vittorio, scusami, io lo sai, una volta mi è capitato ero in Francia, i grandi racconti, le grandi testimonianze, no, ero in Francia tanti diretta. Anni fa mi è capitato una cosa, sono uscito con la mia donna di servizio in Francia, Vittorio, per non pagarla. No, cioè tu hai preferito farci l'amore per non pagarle i contributi. Sei il solito maiale tirchio, sei il tirchio vero. Uscì un attimo con la mia donna di servizio perché era una ragazzina che mi aveva fatto capire che ci stava. L'avevo ereditata dai precedenti padroni di casa. Sono uscito e abbiamo fatto sesso diverse volte. Poi a un certo punto... Ma ha continuato a pulirti casa? Poi sì, assolutamente. Veniva, si faceva la doccia, me la scopavo sulle... una cosa meravigliosa. Mamma mia, allora a un certo punto la cosa non incredibile... No, Vittorio, lo sai che è successo poi? Che a un certo punto un giorno andiamo a cena fuori e io mi viene un dubbio. Scusa, ma tu quanti anni hai? Aveva 17 anni. Avrebbe fatto 18 anni di lì a poco. Caro Vittorio, reato prescritto ormai, però. Caro Vittorio, potremmo segnalarlo. Non c'è reato. No, non c'è. La libertà sessuale donne, però avevo i brividi degli uomini. Mi sono venuti i brividi. Perché sai che questa qua poi non te denuncia per mille motivi? Ma non può denunciarti. Ma può, sì, vabbè, succede di tutti i colori poi. No, dai. La minorenne da 14 in su, la donna è libera di fare quello che vuole, a seconda della sua libertà personale, dei rapporti con i suoi sì, genitori. Sì, non c'è dubbio, però poi c'è il plagio, sai, ti possono accusare di plagio, possono denunciarti per mille motivi, dai, non. Cioè, figuriamoci. Mi segnalano adesso via internet che la procura di Woodcock ha già aperto un'inchiesta su questa cosa tua che hai detto. Su se stesso. Sì, no, il dato è inoppugnabile, diciamo. La libertà sessuale dei ragazzi comincia per maschi e i maschi sono più immaturi delle donne a 14 anni. Sì. E molti ragazzi sono anzi una ragazza che lo sa. Cioè, secondo te, per esempio, in America ci sono moltissime notizie che arrivano ogni giorno, per esempio, no? In America, che in America, per esempio, ultimamente hanno da tempo questo condannano o mandano a processo anche delle professoresse di 40 anni, 45, perché stanno con degli alunni di 15 anni. Per te è normale? No, ma quello consenzienti, non so come sia la consenzienti. Però basta che voi che siete in diretta apriate Wikipedia e vedete quando c'è la libertà sessuale per una donna, anzi non per una donna, per un maschio, per una persona dai 14 anni in su puoi fare quello che vuoi, maschio o femmina. Scusa, che c'è un caso in America del genere adesso, fa sesso però, con uno studente di 16 anni, professoressa si giustifica, ci siamo innamorati. Appunto, però non c'è nessun reato se non il possibile plagio. Ho capito, ma lì sono cazzi poi, sono cazzi. Io non ho capito, tu per esempio con una donna più grande, il massimo con cui sei stata, che età aveva? 66, te l'ho detto. Cioè la più vecchia con cui sei stato 66, tu mi avevi? Pare 66. E tu avevi? Non so, ne avrò avuti 40. 40, sono 20. Stato a lungo con una signora veneziana, molto patinata, che aveva 38 anni, io ne avevo 26. Sì. E all'epoca sembrava che io fossi una specie di serontopo, no? Io ho 37 anni, una è una ragazzina. Però parliamo degli anni 70, per cui ho vissuto anche quella condizione di cui stiamo parlando. È bello, la donna maturati, nel senso che anche tu hai trovato una tua maturità. Insomma, da ragazzino invece, da 16 anni, 17 anni, sei stato con qualcuno più grande, sicuro? O sì, no? Però quello sono stato, sì, la prima ragazza che è stata con me era la figlia di un deputato del Partito Comunista, sono entrato direttamente nel Partito Comunista. Lei era del 47, io del 52, quindi aveva 5 anni più di me. Ah, va bene. Però era bellissima, era una bionda, sembrava la Bardot. E chi era, scusa, la figlia di chi? La figlia di, non so se si sbaglia, comunque il deputato era un deputato comunista di Ferrara, che chiamava Lo Perfido. Sì, tu, Lo Perfido. E io mi fidanzai, poi ero proprio fidanzato con sua figlia. Eri fidanzato con la figlia di Lo Perfido. Sarà contenta che abbiamo reso noto il vabbè, ma è una storia vecchia. Lei l'avrà anche dichiarato, anche lei, non era una cosa misteriosa, era un fidanzamento ufficiale. Cioè, comunque io dico, ragazzi, è molto più naturale un ragazzino come Macron all'epoca, o anche adesso in parte, con una vecchia, piuttosto che uno di 75 anni, che ne so, di 65 anni, con una ragazzina. Vecchia non si può dire, perché oggi la donna non è più vecchia. No, ma vecchia per modo di dire, per inquadrare la cosa. Lo era 30 anni fa, 20 per esempio, anni in era, teoria non c'è bisogno di Viagra. In teoria, in un rapporto del genere, non c'è bisogno di Viagra. Può anche essere, sì, questo lato lo leva ancora. Sono tanti problemi che ponete. Però vedo che non sapete che l'unico reato è prostituzione minorile. Sì, se sì, ma lo sapevo. Data gratis, il reato non c'era. Sì, sì. Così è stata considerata parte lesa, e sarebbe stata lesa se non l'avessero pagata. Quindi è un paradosso logico. Va bene. Ciao Vittorio, ciao. Ciao. Allora, Carlo da Milano, vai Carlo. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Ascolta, io volevo raccontare un episodio che mi è successo qua a Milano. Io lavoro in una portineria di Milano. Sì. Un mese fa più o meno ero sulle scale, ho sentito dei colpi giù alla porta. Sono sceso di corsa e c'era un signor Rom che mi stava rubando la bici dall'interno. Allora, quando mi ha visto questo, mi ha scagliato la bici contro, ho cominciato a scappare. Io l'ho preso e ho reagito, diciamo, l'ho picchiato. Volevo chiedere a Parenzo come si sarebbe comportato lui con... Vabbè, ma è normale che tu l'abbia picchiato, non c'è dubbio. Ma quello di prima diceva sparargli in testa. Cosa devo dire? Non ho capito. No, siccome lei li giustifica sempre, ha sempre non qualcosa... Non giustifico proprio nessuno io. Cosa sta dicendo? No, lei è sempre a favore di queste persone. Ma come faccio a essere a favore di un criminale? Ma cosa gli dice il cervello? Io dico sempre un'altra cosa che evidentemente non le piace, non la capisce e non mi stupisce che lei non la capisca. Io dico semplicemente che quando c'è un delitto, viene commesso un delitto anche per legittima difesa, è normale e doveroso che venga aperta un'inchiesta. Tutto qua. Vabbè, non allora, ho mai difeso un criminale. Mai difeso i criminali. Oh. Oi. Che cosa hai da dire? Non ho capito. No, volevo sapere la sua opinione, perché siccome so che tante volte lui li giustifica, come è successo con quelli della masseria di Lecce, che diceva di trovare una casa. Non ho giustificato niente, ho detto che vanno governati i fenomeni, vanno governati i fenomeni, ho detto. Purtroppo, cioè, l'Italia è così adesso, queste persone vanno... Ma adesso a chi occupa una casa gli spariamo? Cioè, facciamo a capirci, come diceva Di Pietro. Devo chiamare la polizia. Ma no, ma scusi, per capirci. Lì, gli dico, guardi, può sparare per ogni cosa. Ma alla fine che è successo? Dalla moto alla fine, Giuseppe, questo qua, dopo che è successo, diciamo, la coltazione, si è alzato e è uscito tranquillamente camminando, nel senso, senza... Vabbè, cioè, Augusto da Varese, dai, Augusto. Ciao ragazzi. Dimmi. Io volevo parlare con Parezzo, perché la gente è un po' ignorante e non capisce bene l'assurdità delle cose che sta dicendo. Di chi parla? Scusa, non ho capito. Dottor Parenzo, se hai studiato la storia d'Italia, dal Colosseo alle guerre dei Romani, sì, devi capire che gli italiani hanno il diritto di gioire quando un ladro viene ammazzato, hanno il diritto, perché la storia è fatta di gente cattiva che fa una brutta fine. E se tu adesso vai in giro a dire no, ma bisogna mettere la lacrimuccia, ma quale lacrimuccia? Siamo un popolo di uomini o di conigli? Vorrei chiedere. Vabbè, questo non c'entra niente con un popolo di uomini o conigli. Tu stai dicendo però una cosa: che è giusto gioire per la morte di un ladro. È giusto. È giusto. Cioè, tu è quando muore un ladro, gioisci. Sì, gioisco perché se l'è cercata, perché sono anni che la gente in casa ha paura e perché non dovremmo avere. Ma infatti, guardi, tu eri lì alla quella Lega. Gioia, tu eri lì ieri a Varese? Ero cioè, uno a Varese, di quelli che ha applaudito, esatto. Sei uno di quelli che ieri ha applaudito. Sì. Parenzo, pigliatela con lui. Hai detto barbaro, hai detto applauso barbaro. No, hai detto applauso idealmente le mani sporche di sangue. Ma quale sporche di sangue? Augusto, rispondigli, dai. Ma non c'è da rispondere. Sono mani stanche di vedere la gente rapinata in casa, le donne in pericolo. Questo non c'entra nulla, ma questo non c'entra niente. Ma come si fa a prendere un caso come quello? Ma se quello esultava, perché gli è venuto di esultare quando ha raccontato dell'uccisione del ladro, qual è il punto? Perché lo devi dire che è una persona macabra? È una cosa, perché che ha le mani sporche di sangue, uno che è un violento. Uno che applaude perché un altro è morto. Che in quel momento è morto un ladro e uno si è salvato magari, e quel gioiaiere o non so che cosa fosse si è salvato. Ma vedi cosa vuol dire l'uso politico strumentale del fatto di cronaca? C'è una battaglia sulla cosa. C'è una battaglia emotiva di pancia, di gente che si mette lì. Ma a parte l'uso politico, tu spara, devi capire, dai, che gli uomini hanno delle reazioni di fronte alla delinquenza. Questa è una reazione di fronte alla delinquenza per proteggere le famiglie. Sì, ma è esultare. Non si può essere conigli, con quel tono, da stadio. Ma quale coniglio? Ma che coniglio? Ma che cosa c'entra conigli? Una persona muore, un farabutto, e allora dobbiamo stare a spezzare la fogliolina di olivo. Andiamo avanti non così. Non c'è nessuna foglia di olivo. Fermi quello tutti, è ciao, stato consegnato al Padre Eterno. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è squirt. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La Zanzara. Quanto è stata amara quell'estate al mare senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi, di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Tutti assieme vai! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiaman squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. All together! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Visitò un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e Parenzo su quella spiaggia, stavolta non scapperò, no. Ora ho capito tutto, Cruciani mi ha mostrato dei documentari sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì, e ne fanno tanta, questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirti. Con mamma ottantenne e nipoti teenagers, sento la zanzara che esordisce con la canzone "Una mattina mi sono svegliato e la mia donna ha squirtato", quello che è obbligato a spiegare alle tre donne in che cosa consiste lo squirting. Siamo veramente al top. Francoforte, ore 10 del mattino. Mentre mi sto recando in taxi alla riunione con alcuni clienti, un dubbio tremendo mi assale. Ma Brigitte Macron squirterà o non squirterà? Squirterà o non squirterà? Squirterà o non squirterà? Allora, caro David, è proprio vero che dopo averci fatto due coglioni... È un dilemma interessante. Dopo averci fatto due coglioni così per una vita sull'Italia... che un paese dove non c'è la libertà di stampa, appena questi signori di Reporter Sans Frontières, come cazzo si chiamano, beh, sì, ma non sono provano dei... a criticare Grillo, no, dico, provano a criticare Grillo, Grillo si ribella. E sono molto seri questi clip. Sì, non so se sono seri, per me queste classifiche hanno avuto sempre zero come valore, zero totale, ma non mi dire che hanno valore come classifica, 70° posto, ma sono indicative di una serie di fattori che a te non interessa prendere in considerazione, ma voglio dire, non è che sono fatte così a caso. Sono delle boiate, dai. Non è che sono fatte su criteri politici, però, questo ti voglio dire. Non lo so, sono delle boiate, dai, su, cioè, sono delle cose che non contano nulla. L'Italia è un paese libero da questo punto di vista. Ci sono 40.000 organi di stampa, non questo, diciamo cazzate, dai. Non è in discussione. No. Allora, io sto dicendo una cosa: una volta che Grillo viene criticato, adesso questi qua diventano parziali, diventano Ma Grillo, eccetera. Grillo è un leader politico come tutti gli altri, è evidente ormai, no? Federico da Roma, Federico, vai. Federico, buonasera a tutti. No. Dimmi sì. Federico, dimmi. Innanzitutto vi voglio ringraziare per l'intermezzo musicale. Che vabbè, dai, forza, vai avanti. Di alto livello. Poi volevo un sì, però stai parlando col viva voce, stai parlando no, col... sto senza viva voce, sto dai. No, ascolta, stai guidando, però starai col coso, starai col microfono là, con qualche cosa starai. Ahimè no, perché voglio testare il nuovo servizio di ritiro della patente veloce. Appunto. Allora, sì, quindi sto parlando col telefono all'orecchio. Ah, sì, è vero, bravo, perché dal primo maggio, ha ragione sto qua, dal primo maggio, peraltro, tu il telefono, una cosa giustissima, il telefono non puoi neppure tenerlo in mano in macchina, lo sai, no? Vabbè, dai, Federico, dai. Allora, quello che volevo dire io è rifarvi una specie di cicchetto, perché in merito alle parole che avete speso su quel ragazzo morto, allora, la vita è sempre una vita. Anche se è una vita di una persona di merda come un ladro. Certo, bravo. Non quindi c'è non dubbio. Potete spendere parole. Io ho detto che non mi metto a piangere. Ho detto che non mi metto a piangere. Ma quelli hanno applaudito. Tu hai detto non mi metto a piangere ed è legittimo. Non devi né piangere né ridere né a provare non mi metto a piangere. Ma nessuno te lo chiede. Il giostraio. Il giostraio di cui si parla. Te lo chiede né di piangere né di ridere. Un rapinatore. Un rapinatore. Perché non ho finito. Allora il discorso è questo. Poi vi vorrei far presente che ci sono delle categorie molto peggiori di quelle dei ladri. Ci sono i nazi vegani, i dimocchi. Vabbè, ma perché che c'entra? Ma sono cose, diverse. Sono cose diverse. Perché un ladro, non è un ladro di mele, è gente che fa rapine in banca, rapine di qua, rapine di là. Sì, ma non è gente la categoria peggiore che abbiamo. Ma no, ma certamente che anche i nazi vegani. Sì, va, a meno 10, ma che c'entra? Poi non confondiamo cose, fino adesso non hanno ammazzato nessuno, per fortuna, cioè, no, ma io non ho detto i vegani estremisti non hanno ammazzato nessuno, dai. Rocco da Trapani, dai, Rocco. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Ma ditemi una cosa, ieri io vi seguo sempre, lo sapete. Mi riempite le ore che faccio in autostrada per tornare a casa. Ma spiegami una cosa. Voi ieri avete massacrato quel povero zio del nipote che stava in fin di vita, no? Però stasera vi dovete far capire una cosa. Stasera l'avete beccata l'elezione di civiltà, no? E vi spiego. Qual è la donazione degli organi? Certo, hanno donato gli organi. Ha donato gli organi, vabbè, ha donato gli organi, chi se ne frega? Cioè... No, però è un gesto significativo. Ma te le conosci per bene di questi che hanno urlato? Ma non è un obbligo donare gli organi, non è mica un obbligo donare gli organi, No, ragazzi. Certo, però ha ragione a metterlo in evidenza, cioè se quegli organi vanno a salvare un razzista qualunque di quelli che ha applaudito per la morte di quell'altro criminale lì... Su questo ha perfettamente ragione questo ascoltatore, è vero. Per carità, è morto un giostraio, un criminale, chiamatelo come gli pare. Ha donato gli organi, quegli organi magari salveranno qualche stronzo che poi va a applaudire il criminale. Se possiamo dircelo però, che c'è meno che quella umanità che abbiamo sentito via radio pochi minuti fa di quella platea urlante e grondante sangue. State dicendo che applaudiva. Una serie di cazzate pazzesche. No. Questo... Sto dicendo questo, tutt'altro. Perché se la poteva anche evitare, cioè ha fatto una vita disgraziata, non per sua scelta. Senti, amico mio, le chiacchiere stanno a zero. Il padre ha deciso che saranno donati gli organi. Il padre che è uscito dal carcere, il capo clan. Vabbè, ma che siano criminali, nessuno lo mette in dubbio. Si chiama Radames, è uscito grazie alle nostre leggi dal carcere. Gli organi. Tu quanti padri di famiglia conosci che comunque. No, ma va bene. Gli organi di quel criminale salveranno delle persone. Adesso volete fare l'esaltazione del criminale che ha donato gli organi? Nessuna esaltazione, tutt'altro. Fate pure l'esaltazione del criminale. Io biasimo quelli che hanno applaudito il crimine, che hanno applaudito la morte, però. Io biasimo e critico quelle supposte brave persone che hanno applaudito la morte. Non ho capito, Rocco, non ho capito bene, Rocco. Dicevo a Cesare quel che è di Cesare. Beh, ma che cosa devo Rom, dare? Quel che è del Rom, a Rom però... quello che è del Rom, ciò che è del Rom, cioè no, bisogna. Devo disgraziare che non hanno una sua scelta. E allora che cosa devo esaltare? Dai. Il signor Radames, come diavolo si chiama? Radames Maior. Che è uscito dal suo reparto dicendo a mio figlio ha donato gli organi, dovevo esaltare il fatto che no. Sbagli. Non potrebbero essere anche manovre processuali. Potrebbero essere anche manovre processuali. Io non esalto nessuno, tu invece esalti quelli che applaudono un morto. No, mi sembra una risposta spontanea. Tu una risposta esalti, spontanea io non esalto alla morte di un ladro. No, io non esalto niente. Io non esalto, certo, non esalto il Rom morto. No, hai detto che, poi hai detto che è stato un bel gesto. Mi pare un gesto da prendere in considerazione, ma che non salva niente. Non è che fa dire che non è un criminale o che è meno criminale. Questo non c'entra nulla. C'entra invece il fatto che sì. 200, 300, 2000 persone, non so quante fossero, hanno applaudito un omicidio. Fermo, Elisa da Milano, ragazzi, vai. Elisa, vai. Però. Sì, buonasera. Dimmi Elisa, dimmi. Buonasera, dimmi. Cerco di essere sintetica, non si può sentir parlare in diretta alla radio di libertà sessuale delle ragazze 14enni, quasi a giustificare che un uomo di oltre 60 anni si accompagni per il proprio piacere a delle ragazzine. Questo l'ha fatto Sgarbi, lo ha fatto Sgarbi, ha detto semplicemente, ha ripetuto quella che è la legge, cioè sul consenso. Io ho detto che a me non mi è mai capitato e la cosa mi dà anche un certo fastidio, però ho detto questo è una mia, lui ha ripetuto quello che è la legge. Oggi ha detto Sgarbi, il mio range ha detto, tra l'altro non era 14, 16, 66 ha detto, il mio range è 16, sì, ma siamo lì 14, 16, ma dove sta l'autorità sessuale di una ragazza di 14, ma io non 16 anni? Ma non è vero, a 16 anni ci sono ragazze molto molto mature dal punto di vista sessuale, ma non certo è questo, ci sono ragazze più mature. Ma da qui a pensare Elisa, che una ragazza di 14 anni, sì, ma tu stai parlando col viva voce, amica mia. Stai parlando col viva voce. E allora abbi pazienza, togli questo viva voce, altrimenti mi incazzo. Dai, forza. Ci sei? Ci sei o no? Ok. No, perché altrimenti, capito? Parlano sì, tutti. Sì, hai ragione. Parlano ragione, tutti, ma era normale, non è che arriva lei. Strumenti. Allora, Elisa, scusami un attimo. Sgarbi ha semplicemente detto che c'è, da questo punto di vista, una legge molto chiara. Sopra i 14 e sotto i 14. Poi ognuno ha le sue preferenze, ha le sue cose, no? No, ma è questo il punto. Qui, col discorso delle preferenze, si va a giustificare un comportamento che non è corretto. A me, allora, o guarda, va bene tutto, mettiamo dei limiti. Ma i limiti sono la legge, i limiti sono la legge, amica mia. La legge, i limiti sono la legge. Non vi sta bene, non ti va bene la legge. Ci sono dei valori superiori. Guarda, per quello che mi riguarda, io non vado con una minorenne, non sono mai andato, mi fa orrore. Chiederei sempre la carta d'identità con una persona minorenne, chiaro? Per cui legge o non legge? Capito? La legge però consente di andare anche con persone che sono più giovani, 16 anni, uomini o donne che siano, e basta che ci sia il consenso. Questo ha ripetuto Sgarbi. Ma qui il messaggio che ma non c'è nessun messaggio qui, questa è la zanzara, non ci sono messaggi qui. Un attimo. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuoio. Comunista di merda. Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Soltanto a imparare a camminare, eh? Se non ci sei tu, comunista di merda. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Get your kicks, you gotta run, run fast from the gloomy grips. You keep the bad thoughts out and the smoke away. Come on and get yourself together. Salut Giuseppe, salut David, nous sommes à Paris. Siamo due italiani, abbiamo appena fatto l'amore. Con cosa abbiamo fatto l'amore? Con la zanzara. Il super amore. È una moda ormai, sì, è una moda, capito, perché lo ormai dicono, è una me, moda, l'ho capito perché me lo comunicano, sì, perché, a me cosa me ne frega, perché me, tu sei critico nei confronti di quelli che raccontano la propria intimità, no, in questa radio, questo sicuramente sì, in ma questa la cosa trasmissione è che più, radiofonica, però, siccome voglio entrare nel merito, come vedi non mi sottraggo a nulla, voglio, sì, entrare, sì, nel merito. Mi piacerebbe conoscere queste coppie che dicono di fare l'amore mentre ascoltano la radio. Ma è gente perversa, ragazzi belli. Ma no, cioè, ma che gente, ma gente sì, normalissima, dai. Ma uno ascolta che so un po' di musica, crea un momento anche di intimità. Però la ma voce come di fa Parenzo a sentire, magari amico li mio, amico mio, che c'è, è stato Rothschild. Cioè voglio dire, questa roba qua è, ma guarda che le perversioni sono infinite. Sì, cioè la via delle perversioni è infinita. Ma le perversioni non sono brutte come cosa in generale, però. Cioè ma, la perversione scusa, come cosa non è brutta. È quello che però ti sto dicendo, cioè, ma ti ho capito, sì, è una perversione certamente. Convieni con me, certamente, ho capito, ma sarà meglio questo o un fare l'amore con una canzone di Gigi D'Alessio? Forse siamo allo stesso livello. Adesso, io adoro Gigi D'Alessio, per esempio. Ho scopato tante volte con la canzone, con le canzoni adesso, di Gigi D'Alessio. Non so, tu hai mai scopato con fatico una canzone di Gigi D'Alessio? Dottore, no, Gigi D'Alessio no, però 883. A me piace Parenzo. Cioè tu hai scopato con una canzone degli 883. Hanno ucciso l'uomo ragno, si quale fa impazzire, ad esempio. Va bene, Fabio da Rieti, vai Fabio. Piace molto quando dice hanno pronto ucciso l'uomo ragno. Perché ti faceva incitare sta roba. Chi sia stato quel pronto mistero, no? Chi sia stato non si sa. Forse forse quelli della mala, forse la pubblicità. Dimmi Fabio, dimmi, oh, che cazzo vuoi? Stai Che fai? Ma che sei? Un vandalo, dai. Dai, dimmi. Cerchia, ciao ragazzi. Dimmi, dimmi. Allora io dicevo abbasso le MILF, viva le trentenni, perché ma no, dipende, no, quanti anni hai, ma Fabio? No, io 48. Vabbè, a 48 allora, anni, più o meno la mia età. Io sinceramente io ti dico una cosa. Anch'io ho un range piuttosto vasto, diciamo, no? Senti, range, senti, sì, range. Range, ranger, come quello allora, che ha sparato ranger alla cosa. Allora c'è una Giostrai mia vicina di casa, sì, che assomiglia spiccicata alla compagna di Macron. Sì. Io sono disposto a pagarti, a darti dei soldi veri, sì, veri, perché tu hai detto che ti fa sangue quella ragazza, quella donna lì. Se tu te fai una doppietta con quella lì, io ma ti do i soldi. Ma che vuol dire? Non ho capito. Cioè io perché dovrei essere una io? Una doppietta. Ma che vuol dire una doppietta poi, scusa? A scopare prima e seconda ti fai. Ma quello tu, è molto no? difficile, Fabio, quello è molto difficile. La doppietta è per molto me è difficile. Tu hai detto che ti fa sangue. Ma quella, ho capito, ma quella. Ma l'hai vista, c'ha le gambette secche, la pelle rinseccolita. Amico mio, se la vedi spogliata, dai, come cazzo fai a dire? Amico mio, mi fa sangue, che ti devo fare? Fa sangue, come cioè, cazzo fai a dire? Tu, mi fa sangue, parole, non so come dirti, mi fa parole, sangue. Io sono disposto a darti dei soldi. Ma io amico mio, ma va bene. WhatsApp e non ma fare chi, non fare chi è questa qua? 66 anni, la conosco perché ottima, è una vicina di casa. Ottima, 66 anni. Se tu riesci a fartene due in una settimana, no in una due in una settimana. Se ma com'è? È messa bene questa? È messa bene questa? Sembra Mandalir, come la compagna vabbè di Macron. Uguale. Uguale. Vabbè, bisogna vedere. Uguale. Poi quella è anche il fascino di essere la compagna di Macron. Le gambette secche. Sì. No, a te adesso perché ti piace, perché adesso sta sulle copertine, tu la devi vedere nuda, nuda. Adesso io l'ho vista in piscina, una com'è cosa orrenda. Con tutto il rispetto, una donna di 66 anni, Ma io immagino Cruciani a letto con questa di 66 anni. Mamma mia, che ma perché ti immagini? Due in una settimana. Ma perché per forza devi immaginarti questa scena incredibile? Io a letto no, con questa. No, dopo che tu hai detto. No, io ho detto che mi piace. Sono della scuola. Come si chiama? Del barone. Il barone di Munchausen. Tu sei della scuola Do Coio Coio, te lo dico. No, sei di quella scuola lì, che è una scuola fordista. Che dice. Sì, dice arriva un, non è che guarda no, in questo caso, tu non sei qualità, no, qualità. Non sei no, stelle qualità. Michelin, non sei della ristorazione slow food, no, tu sei grandi numeri, carichi, grandi numeri, no, e quindi lì in mezzo c'è veramente tutto, avanti chi tocca, ora serviamo il numero 44, arriva, non sei gourmet, ciao Fabio, fammi sapere, dammi il numero di telefono di questa, così la chiamiamo in diretta, no, chiamiamolo in diretta, procura il numero di telefono e chiamiamolo in diretta, senza Chalice e senza ma Chalice non lo uso. Uso cose naturali al limite. Non lo uso. Uso quelle pillolette ogni tanto che mi dà quello l'amico mio, quello che sta in Spagna. Un saluto, ciao Zozzoni. Ciao. Ma Zozzoni, io non sono Zozzoni per niente. David? Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. E s'arrapava. Forse vabbè. Quelli della mala. Allora, domani. Giallo. Domani si sposa, credo. Sì. Ad Aversa, se non sbaglio. Si sposa ad Aversa una persona. Cioè, si sposano due persone in realtà. E lei è transessuale. Senti la polizia sotto. Ma ehi, ci danno da morire. Mi fai fare questa introduzione? Alla centrale della polizia. Abbiamo scoperto che allora, il commissario shock libero domani. Parenzo shock. Scopavo con l'uomo ragno. Con la canzone uomo ragno. Dai. Allora, non vince. La camicia è già la giustizia. Domani si sposano ad Aversa. Due persone, naturalmente, non da soli. Da soli non ci si può sposare. No, due persone. Ancora no. Una di queste è transessuale, ma non ha ancora fatto l'operazione, cioè ha ancora tutti i suoi attributi. Però ha la carta d'identità, se non sbaglio, per forza, altrimenti non si potrebbe sposare. Perché non è un matrimonio con le unioni di fatto, caro Parenzo. No. È un matrimonio vero e proprio. Bene, davanti allo Stato civile. Dunque, evidentemente, sposandosi con un uomo, lui si chiama Michele Picone, lei si chiama Alessia Cinquegrana. Questa Alessia Cinquegrana, la signora Cinquegrana, che avemmo ospite tempo fa perché ha vinto una volta un concorso. Che si chiama Miss Trans. Ma figuriamoci Trans. Se anni fa è stata già a questi microfoni. Ma la signora Alessia Cinquegrana ha fatto un cambio di identità, non dal punto di vista fisico, ha la carta d'identità femminile. Evviva. E dunque si può sposare come ti sei sposato tu. Sì, come mi sono sposato tempo io. Fa. Vabbè, facciamole un tempo regalo fa. Allora a questo punto. Alessia, buonasera, ciao. Ciao, buonasera. Come stai? Buonasera, signora. Bene, tutto bene. È un po' emozionata, stressata, non ce la faccio più. Domani è matrimonio, Sì, domani alle 16:30, il rito civile. Amico mio. Le mandiamo Mercù, Andro Mercù come delegato. Andro? Perché c'è tra Andro Mercù? Mandiamo come delegato ospite lì al matrimonio, Andro Mercù fa la cronaca in diretta lì, bellissimo. No, ma è un imitatore, bellissimo. No, allora, Mercù fa mai un cazzo, ma la sera, mandatelo lì, no? Scusa, non è vero che non fa un cazzo. No, sto scherzando. Scusami, Alessia, domandami che mi devi chiedere, c'ho il colore in testa. Che c'hai il colore? Come sì, il colore mi sto in facendo testa? La tinta. Ti stai facendo la tinta. Facendo la tinta. Ma come sarai? Scusa, questi capelli come saranno domani? Non lo so, mo vediamo. Senti un attimo, vestito una cosa di bianco, ma però immagino, la cosa incredibile che è un matrimonio vero, cioè non è un matrimonio con l'unione civile, è un matrimonio vero, cioè... No, sì, è un matrimonio vero, quello che sognavo io, quello è arrivato. Ma quando l'hai messa quando hai fatto il cambio della carta d'identità? Cioè... L'8 novembre ho fatto la causa, sì. E per dicembre ho avuto la sentenza positiva che il nome stava alla cancellazione. Sì. E poi quando hai avuto la carta d'identità col nome? Il 7 gennaio, 7-8 gennaio. 7 gennaio. Dunque tu com'è che ti chiamavi prima? Alessio, no? No, tesoro, non lo voglio dire. Non mi ricordo, non lo vuoi dire. Vabbè, ma mica no. È un delitto, cioè è una cosa positiva. Mi chiamavo Giovanni, adesso mi chiamo Alessia. Giovanni. Noi siamo a favore di tutte queste cose qua. Noi sì, vogliamo che è normale, ci mancasse. Beh, no, ma sai, un sacco di gente dice che questa cosa qua, per esempio, ieri da noi ad Inolfi, quando gli abbiamo detto che si sposava una coppia transessuale, cioè una coppia, tu transessuale, lui è maschio, ha detto che è una cosa da bloccare, che bisogna che l'ufficiale di Stato civile non sciocchezze. Tu lo conosci il signor Mario Di Nolfi? No, non conosco. Sai chi è il signore Di Nolfi? No, non lo sai. No, ma purtroppo non possono bloccare. La legge è accettata, i documenti sono validi. Dunque, gliel'hai messo in quel posto, tanto per dire una cosa. Certo, sono in regola, capito? È tutto pronto. Cioè, a quelli come Adinolfi gliel'hai messo in quel posto, questo si può dire. Certo, è normale, si possono, come si dice da noi qua ad Aversa, si possono appendere la tram. Si possono attaccare al cazzo, io direi, in maniera molto più esplicita. La signora è più esplicito, diciamo. Si possono attaccare al tram. Ma il fatto, io voglio capire, tu vuoi avere figli insieme a Michele? Io non posso concepire, purtroppo. Poi se ci sono miracolo dello Spirito Santo, adesso penseremo anche più là, ci dobbiamo rilassare prima e poi penseremo a una adozione. Ma nei vostri progetti c'è l'adozione pure? Certo, c'è adozione. Dunque vuoi avere figli, diciamo. Ma che sta a fare la tinta? Pronto? Ti sento. Ma Michele sta lì, me lo passi un attimo? Sì, Michele sta lì. Passamelo. Però, si dice, no, due per... Due? Si sposa, credo, no? Due persone. Perché è due persone, una coppia che si sposa. Vabbè, sì, due Va persone. Bene, dai, ti passo Michele, grazie di tutto. Che ho detto io, scusami. Grazie amico. Di tutto, è dai. Alessio. Va bene. Sì, ciao, passami Michele, dai. Grazie. Ciao. Pronto? Michele, ciao, come stai? Ciao, bene. Auguri intanto. Auguri grazie, per domani. Grazie. Ci sono molti bigotti in Italia, noi siamo a favore. Alessia stasera è un po' così nervosetta. Certo. Perché sai, siamo un po' nervosi. Perché? Perché siete un po' nervosi? Perché stiamo facendo le ultime cose, allora, capito? Ma mi hanno detto che andate pure al Costanzo Show, è vero? Dovremmo andare, poi non lo so ancora questo. Vabbè, è andato a fare un po' di spettacolo lì, che cazzo. No, a portare la loro testimonianza. No, ma io sto dicendo una cosa, noi siamo molto a favore di questa roba qui, contro tutti i bigotti. Ieri il signor Adinolfi, conosci Adinolfi tu? Signor Adinolfi. No, è un tizio che spara zero sempre contro i gay, le unioni gay, eccetera, eccetera. Ha detto che è una baracconata. Vabbè, sarà, secondo me lui sarà qualche malformato mentale. Sì, può essere, non lo so. Può darsi. Cioè, tu dici che quelli là sono anche 2017, credo che. Ma tu dici che quelli che dicono così sono anche dei gay repressi, dici? Quelli che non sono... lo so, questo non lo so perché non conosco di persona alla persona, non ti so dire, non posso giudicare. Ecco, tu da quanto tempo voi eravate amici prima di mettermi insieme, no? Sì. Cos'è che, voglio dire, il fatto che lei ancora non abbia fatto l'operazione è una cosa che ti mette in difficoltà o vuoi che la faccia questa operazione? Vabbè, cioè, non è che mi metto in difficoltà. Oh, pronto? Ma perché va via la linea? Ma che ne so, ad Aversa. Pronto? Questo non vuole. Michele, non ti sento più, Michele. Spostate un attimo, Michele. Ah. Oh, scusami, non t'ho sentito. Dimmi. Ho detto, io devo obbligare lei a fare questa cosa che poi lei non deve stare bene, perché adesso non è il momento, adesso non si sente pronta psicologicamente. Sì. Perché la devo obbligare? Quando arriverà in quel momento che lei psicologicamente... Ma per te è una priorità che lei faccia questa operazione oppure ti piace pure così? Vabbè, che significa? Stiamo 10 anni insieme, credo che per me sarebbe la stessa cosa. Cioè a me, sinceramente, a me mi interessa la sua parte femminile, non mi interessa la sua parte maschile. Vabbè, però quella c'è, amico mio. C'è, però a me non me ne frega. Non te ne frega niente, per te non c'è praticamente. Per te non esiste questa parte. Vabbè, io voglio capire una cosa. Lui sarà sua moglie. Ma pure te vuoi avere figli? No, ho capito. Pure tu vuoi avere figli? Vabbè, se sicuramente sì. Capita l'occasione. Se capita l'occasione che si può adottare e togliere qualche anima innocente da orfanotrofi, sicuramente sono favorevole. Una baracconata, ha detto Adinolfi, una baracconata. Ha offeso la sensibilità di questi due ragazzi, questo è brutto. Tu quanti anni hai, Michele, scusami? 30 anni, e lei hai Alessia? 29, vabbè. Bene. Ragazzi, auguri, figli auguri. Maschi, anche se li dovete adottare, però sempre figli, eccetera, come si dice in questi casi. Arrivederci e grazie, buona serata. Grazie ciao. A te, ciao. Saluti. I preparativi di Alessia e Michele. Bah. Don't you let them tell you one about your eyes. You're the only ones gonna sacrifice. Make no difference if you're right or wrong. Allora ragazzi, Giovanni da Roma, vai Giovanni. Finalmente, è un'ora che sto al telefono. Dimmi. Vabbè, ti sei beccato pure la trance, dai. No, sai che c'è, che sto al Cristo Re ricoverato, quindi ho fatto stamattina subito un interventino. Che è successo al Cristo Re? Al Cristo Re, bellissimo. Al Cristo Re. Cristo Re ospedale, sì, l'ospedale, sì, l'ospedale Cristo Re. Che hai fatto, scusa? Che incidente? Un'operazione, una protesi all'anca. Una protesi, mamma mia, mi dispiace. Non mi di quanti anni ho, perché mi fanno tutti questa domanda, dicono: com'è possibile? Che te lo dico, com'è possibile? È possibilissimo. E vabbè, protesi all'anca per quale motivo? Scusa, c'è stato un incidente, una cosa? Che è successo? Sì, ho subito una botta a calcetto qualche anno fa, però vabbè, pensavo fosse niente di che, invece poi me la so portata dietro, eccoci qua. Vabbè, senti, allora perché mi hai chiamato? Non credo per raccontarmi che stai all'ospedale, che ti devi fare la protesi. No, per carità, perché già la vita è tanta amara, figurati se... Vabbè, allora... Allora, io una cosa a Parenzo, perché non l'ho mai capito, vorrei capirlo stasera, visto che sto tranquillo, non mi posso manco incazzare. Ascolta, io ho subito un furto 2 anni fa a casa mia, fortunatamente mia figlia e mia moglie non erano dentro, stavano insieme a me. Calcola che il ladro era un povero cretino, quindi ha preso 2 schiaffi e se n'è andato, nemmeno gliel'ho dato io. Allora io ti voglio fare una domandina, David. Tu entri dentro casa, immagina sto film, c'è tua moglie a pecorina con il rom di turno, con il nero, con l'italiano, anzi con l'italiano. Già qui stiamo, come dire, andando... Moglie a pecorina con... Scusami, fino adesso avete parlato dei cazzi, moglie ti dico pecorina... No, di... Ma chi ha allora, detto niente? Da pecorina con l'italiano di turno, no, con il rom. Tua moglie strilla non perché sta godendo, strilla perché gli fa male. Vorrei sapere, ma tu... Che fai? Da vicino gli dai un colpettino di dietro sulla spalla e vogliamo parlarne? Vedi, io questo esempi, non ho mai capito di te, lo sai? Vedi i grandi esempi, le grandi Davide, cose. Ma cosa vuole che Ma che situazione, che roba è? Ma cosa vuole che faccia? Io non sono armato. Ma scusa, tu che cosa hai fatto con questi ladri, Giovanni? Non ho capito bene. No, allora ti ho detto che era un povero cretino, era un rom cretino. Quindi non c'è stato nemmeno... Gli hanno dato 2 schiaffoni vicini, nemmeno gliel'ho dato io. Ho capito, ma tu sei armato? No, ma se a me mi si presentasse un filmino del genere, stai tranquillo, armato o non armato, io comunque quello lì lo lascio lì. E lo lasci lì, dipende quello che c'hai in mano. Ma anche lei non è armato. A casa, cosa, ma a sta casa, dicendo cosa... delle cose che sono talmente folli, perché non essendo neanche... Perché neppure... sono folli? Perché anche io... lei ha ammesso di non essere armato, quindi diciamo... Come reagisci, reagisci di fronte... Sei armato sono o no? Sono armato, sì, sono armato. Che dai. C'hai? C'ho tutto, balestre, pistole, fucili, tutto. Che faresti davanti a uno che si sta per inchiappettare tua moglie? Ma cosa vuoi fare? Ma ti difenderesti? Che fai? Che fai? Gli tireresti la badilata in testa, dai, ma che esempi sono? Ma come lo lasci per terra? Come? Gli spari? Che fai? Certo, ma scusami, Giuseppe, non stiamo a fare i cretini. Uno se sta a fare mia moglie... Vabbè, quella però è un'ipotesi limite, diciamo, no? Gli stupri ci sono, durante i furti. Io gli ho domandato questo, tua moglie... Ma che cosa vuoi che faccia? Ma gli tirerei una... proverei a difendermi, chiamerei aiuto con qualcuno, ma non lo so, ma che esempi di stupidi sono? Ma sicuramente intanto, se non sono armato, intanto chiamerei aiuto. Mi avventerei sull'assalitore, imbecille che non sei altro. Com'è che ha detto? Com'è sicuramente che mi butterei sull'assalitore. Dopodiché, io sai cosa farei? Ti manderei serenamente a fare il culo. Ci stanno inculando mia moglie. Ma che serenamente cazzo a fare il culo ti manderei. Ciao, amico mio. Ciao. Chiamerei te. Mi saluti sua moglie. Devo intanto chiudere. Ciao. Ma io ti saluto tua sorella. Io non ce l'ho, ma va a fare il culo. Però non rispondi. Non hai il... A domani. Avete rotto il cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beppe, porca puttana. Radio 24. Libera la voglia di fare.